È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Come si bella cavalla stu camella, col vino glattra con la coda bandi un archile. Ue si curioso mentre scava stu portu, si scorda della non è cosa che ho patroria non c'è sta. Alla alla alla, ma chi t'ha fatto fa? Come si bella. Caro Telese, dove sei? Non ci sei più, sei già sparito, adesso ti richiamiamo. Voglio sapere se anche Telese si indigna per Gheddafi. Intanto sentiamoci il TG2. Colloqui a porte chiuse tra Gheddafi e Berlusconi sotto la tenda. Il leader libico nell'incontro con altre hostess aveva detto: le donne le trattiamo meglio che in Occidente. Strage della follia a Bratislava, ex poliziotto armato di mitra e forse drogato ha ucciso 7 persone di cui 6 appartenenti ad una famiglia rom, poi si è tolto la vita. Licenziato uno dei medici protagonista della lite in sala parto a Messina, le scuse del ministro Fazio che ha incontrato la donna. Polemiche e perplessità sui test d'ammissione alla facoltà di medicina da giovedì al via. Per molti rettori non sono adeguati a scegliere i migliori dottori di domani. In attesa di Telese, più avanti, che sicuramente sarà indignato per l'arrivo di Gheddafi in Italia e soprattutto per tutto quello che sta succedendo, le amazzoni, le hostess, le conversioni finte, le conversioni vere, i cavalli, le tende, gli affari. Mentre io non sono indignato per niente, sentiamo Sallusti, condirettore del giornale. Gheddafi è come il Papa in Africa. Non capisco perché se Berlusconi tace, nel senso che non contesta le parole di Gheddafi, che tra l'altro, ripeto, non sono parole insultanti. È come quando il Papa va in Africa e invita gli africani a convertirsi al cristianesimo. Non è che lo devono buttare fuori a calci nel sedere. Come il Papa in Africa! Stupendo. Ancora Sallusti. Gheddafi nulla di offensivo. È un Islam annacquato. Non ha detto nulla di offensivo. Ha sostenuto delle tesi che sono le sue tesi. Peraltro il suo, tra l'altro, non che c'entri con la questione, ma è un Islam molto strano, molto annacquato, addirittura non riconosciuto dalle comunità islamiche tradizionali. Ma c'è un coro, naturalmente, anti-Gheddafi, capitanato non solo dall'opposizione, l'opposizione del Partito Democratico, ma anche dai radicali. Sentite Pannella, povero Islam. Povero Islam, io lo vorrei difendere un po'. Fare dell'Islam il grande promotore, il crociato dell'Islam, questo qui è un'offesa all'Islam, mi pare, ho l'impressione, sì. O no? Anzi, ah, anche la sua fede. Ha fede. A proposito di fede, l'introduzione del servizio del TG4 sulla vicenda Gheddafi, sentiamola. Il leader libico Gheddafi è giunto oggi a Roma per celebrare i 2 anni della firma del patto Italia-Libia. Alloggerà come consuetudine una grande tenda che è stata allestita nel giardino dell'ambasciata di Libia a Roma. È accompagnato, tra l'altro, da bellissime amazzoni e 30 cavalli di razza. Naturalmente una città blindata. È stato accolto, lo vedete nelle immagini, dal nostro ministro degli esteri Frattini. Sarà ricevuto al Quirinale, avrà un lungo colloquio politico sulla politica e sull'economia con il presidente Berlusconi. Amore, amore mio, mon amour, o sai, non ti aspettavo proprio più. E te volevo scrivere una lettera, però, a giù pensate, meglio una canzone, perché no, teneva voglia pazzi di vedere. Primo ospite della serata, Mariano Picella, buonasera. Buonasera, buonasera. Come sta? Dove si trova, signora Picella? Mi trovo a Roma in questo momento. Ma non è che va stasera, mi va pure lei a questo ricevimento per Gheddafi, 800 persone, no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, assolutamente. Non è che le ha chiesto pure questo il Premier, no, di suonare per Gheddafi? No, no, questo no. No, no, no, no, no. Però lei lo farebbe volentieri, perché no? No, non ho capito, scusi. Lei lo farebbe volentieri, perché non cantare anche per Gheddafi, insomma. Ma no, io canto un po' per tutto il mondo, per cui se mi avesse detto vieni a cantare per Gheddafi ci sarei andato, qual è il problema? Figuriamoci, non c'è nulla. Due canzoni al volo sarei andato via subito. Certo. Senta, l'ultima volta che lei ha cantato insieme a Berlusconi quando è stato? Insieme, per Berlusconi, invitato da Berlusconi, quando è stato? L'ultima volta? Sì, l'ultima volta. L'ultima volta di recente, un paio di mesi fa. Un paio di mesi fa. Ma che l'ho visto, ma senza che non ha cantato, non ha. No. No, queste cose le faceva più all'inizio, ma adesso negli ultimi tempi non è. Non ha. Diciamo è poco disposto a queste cose. E come mai? Non glielo so dire. Vabbè, ci deve essere successo qualcosa. Ogni tanto però si legge da qualche parte, ha cantato anche Berlusconi, eccetera. Invece con lei... Sì, vabbè, ma voglio dire, però non è una cosa di tutti i giorni. Cioè, a volte se la sente, a volte no, a volte non lo fa, per cui... Ultimamente poco disposto, lei dice, a cantare. Ultimamente sì. Senta, lei ha girato il mondo cantando, no? Ma in Libia è mai stato? No, non sono, io sono stato in Abu Dhabi, Dubai, Bahrain, l'Egitto, ma in Libia no. In Libia no, evidentemente. Ci dovrà essere una prima volta. Anche, tutti, Berlusconi ha un grande legame con Gheddafi, insomma. Le piacerebbe andare a Tripoli? Ma guardi, per me sarebbe indifferente la cosa, perché poi diciamo che le città più musicali erano il Libano, ma non la Libia. Non mi è mai risultato che la Libia... Non ha una grande tradizione musicale, dice. Ecco, ecco. Secondo me sì, per cui chissà. Invece l'Egitto, diciamo, Dubai, che negli ultimi anni è diventata un po' la Parigi del Medio Oriente. Lì si canta, si suona, si fa molte cose. Mi sembra che a Tripoli invece non ci siamo, No, a Tripoli diciamo la vedo un po' meno musicale delle altre, non ci sono mai stato, per cui non vorrei giudicarla, per cui no, certo. Sarebbe, però so, non mi sembra che ci sia una grande vita notturna, magari sì, non lo sappiamo, io non ci sono mai stato. Però no, non... Ma al di fuori della vita notturna mi sa che non ci sono tantissimi posti italiani laddove usano il chitarrista, perché dove io suonavo in questi posti, tipo l'Egitto, a Dubai, erano dei grossi alberghi che avevano il ristorante italiano. Certo. Beh, sa, magari. Però sì, io devo dire la verità, in 15 anni che facevo questo lavoro qua, ma parlo già ormai di 20 anni fa, non mi hanno mai proposto la Libia, ecco perché dico questo. Ci deve essere qualcosa, no? Mi hanno proposto il Libano in guerra, ma non la Libia. Senta Picella, ma questo nuovo disco che lei ha realizzato insieme al Presidente del Consiglio, scritto mi sembra insieme al Presidente del Consiglio, a che punto è? Guardi, il disco è finito, però ecco qua. Gli accorgimenti che bisogna un po' sentire insieme al Presidente, negli ultimi tempi lei vede che la cosa è un tantino difficile. Beh, dire. Dovrebbe essere sempre difficile. Parlare di dischi in questo momento. E perché è difficile? Berlusconi ha sempre una vena di divertimento, al di là poi delle traversie, e di quello. No, ma questo non è assolutamente un divertimento, cioè decidere certe cose insieme, per cui... ci vuole un po' di tempo, di morale un po' più su, no, voglio dire. Che significa? Dovrebbe essere un po' più su di morale, dice lei? Da parte del Premier, no? Lei dice dunque nell'ultimo periodo non è molto così disponibile al divertimento. Io non lo incontro da due mesi per il semplice fatto che ho fatto una mini tournée estiva ed è quasi terminata, per cui non lo vedo un po', non le so dire negli ultimi tempi, però io immagino che sia così. Dunque lei dice ci dobbiamo vedere per che cosa? Per chiudere, per completare le ultime strofe, per che cosa? Cosa manca a questo disco? Ma diciamo che dobbiamo decidere un po' insieme il titolo, la copertina, l'interno del disco, tutte queste cose qua. Decidere se ci vogliono foto oppure meno, se ci vogliono mettere dei disegni, delle cose, delle vignette. Ma quante canzoni ci saranno? Ci saranno 13 pezzi. 13 pezzi scritti tutti da voi due insieme, oppure qualcuno più da Berlusconi? No, più da lei? Scritti dal Presidente, e il Presidente si avvale di qualche collaboratore che già nei dischi passati hanno partecipato, per cui è sempre uguale la cosa. Ma lui scrive qualcosa oppure sono i collaboratori che scrivono? Mi dica la verità. Non ho capito, scusi. Lui scrive per davvero il Presidente oppure sono i collaboratori lì? Lì che fa per finta, insomma, non ce la terrebbe. No, eh? No. No, assolutamente no. La partecipazione è vera, voglio dire, ma è più che una partecipazione. È più che una partecipazione, cioè una, è una, proprio una stesura effettiva. Cioè lui che cosa fa esattamente? Cioè si mette lì, quando è che... Lui fa proprio la stesura del pezzo, ha detto bene. E quando lo fa? Eh? Quando lo fa, secondo lei? Ma guardi che per fare un pezzo ci vogliono, voglio dire, tanto ci vogliono 10 minuti quanto un'ora, per cui non è che ci vogliono dei mesi interi. Ma non l'ha mai detto? Io non so, ci ho pensato la notte, mi sono messo lì durante un summit, durante un incontro. Ma no. Anche sul fine settimana, voglio dire, un'ora libera ce l'avrà pure, no, per fare certe cose, per cui non è così difficile. Senta, ma il titolo c'era stato... Poi non è che scriviamo una canzone al giorno. Ah no, beh, certo. Ma sul titolo, insomma, c'erano state diverse indiscrezioni, no? Magari erano indiscrezioni che si riferivano ai singoli pezzi, ai titoli dei singoli pezzi. O Cuore d'Into Zucchero, per esempio, no? Certo, Cuore d'Into Zucchero in napoletano vuol dire quando uno ha una certa contentezza, una certa felicità. Ah, questo significa? Certo, quando un napoletano è contento dice, sai, tengo Cuore d'Into Zucchero, perché in quel momento si vede che attraversa un certo periodo di felicità, di contentezza. Ma come fa il verso? Ce lo può un attimo così strimpellare un pochettino? Cuore d'Into Zucchero, come fa? Così è improvvisato? Dato che è nuovo, io in questo momento sotto mano non ho il testo, se no io gliel'avrei cantato sicuramente un pezzettino. Però non vorrei sbagliare perché non me lo ricordo a memoria. E nemmeno quella, nemmeno un'altra che mi sembra sia Se tu non fossi tu, com'è quella? Se tu non fossi tu non gliela posso accennare perché non è ancora uscito, se no combinerei un guaio con la produzione. Addirittura, ma così, ma no, roba di pochi secondi, non è che... No, roba... ma non vuol dire niente, la tua, dove lei conduce questa trasmissione, è una radio importante, è ascoltata da tantissime persone. Se dovesse sentire la produzione mi fa, insomma... La bacchettano un po'. Insomma, se tu non perché se tu non fossi tu è il brano... È un po' come guardi, un po' come Sanremo, no? Prima dell'esibizione non si può accennare la canzone. Ma è sicuro che esce all'inizio di ottobre questo... Sì, vabbè, dovrà uscire il 9, che poi oscilla di qualche giorno, il 14, il 15, ma il mese di ottobre sicuramente. Altri titoli? Ma se ti perdo come fa? Questa si può dire, qualche strofa di Ma se ti perdo si può fare. Ma se ti perdo, gli altri titoli, poi c'è un pezzo che si intitola C'è amore, poi Stay with me, che è un titolo in inglese ma il testo in italiano. Questa scritta sempre da Berlusconi, tutte Stay scritte. With me, che all'inizio si intitolava Resta qui, ma lui sa, è molto avanti con le cose americane, per cui ha voluto mettere questo titolo in inglese. Ha messo lui il titolo in inglese, Stay With sì, Me. Sì. Beh, insomma, non è proprio una cosa originalissima, diciamo la verità. Non è una cosa? Originalissima, diciamo. No, assolutamente, l'hanno fatto già in tanti, però... In tanti hanno fatto, per esempio, inglese, napoletano, inglese, italiano, noi invece abbiamo usato mettere solo il titolo. Questo non l'aveva mai fatto. Cioè, no, mi spieghi questa cosa. Tutti quanti hanno fatto o inglese o... Per esempio, Pino Daniele usava moltissimo usare l'inglese nei pezzi napoletani, no? Sì, certo. Ecco. Oppure chi lo cantava in italiano e qualche frase in inglese. Invece noi abbiamo usato mettere solo il titolo in inglese. Solo il titolo e la canzone, questa è la cosa, diciamo, nuova. Solo il titolo in inglese e il resto in napoletano. E questa come fa? Questo Stay With Me? Questa me la può fare, Picella. Stay With Me me la può fare. Non è una canzone di punta. Qualche strofa di Stay With Me. Su, mi faccia questo regalo. Faccia questo regalo ai nostri ascoltatori. Lei è un tentatore, comunque. Molto, molto tentatore. Fa così, guardi. Stay with me. Stringiti forte a me. Stay with me. Alla luce delle stelle, stay with me, fino a che nasce il sole, resta qui, e donami il tuo amore, e donami il tuo cuore, stay with me. Mariano Picella, Radio 24, ci risentiamo tra poco, resti lì a Picella, ancora qualche domanda, 18:46. Amore, amore mio, mon amour, o sai, non ti aspettavo proprio più. Teneva voglia pazzi di vedere, teneva voglia pazzi di vasa, vasa sta bocca bella, che più bella non c'è sta. Ma sa sta bocca dolce, che più dolce non ci sta. E mo che tu stai qua, non sa ce che ci fa. Si ha già ridere o chiagnere, perché è una felicità. Questa, caro Picella, lei l'ha cantata una volta anche con Berlusconi, eh. Sì, io l'ho cantata tantissime volte con Berlusconi, ma all'inizio, ormai è un pezzo che ha 8-9 anni. Sì. Qual è la canzone? Ci hanno un po' massacrato, diciamo, Striscia la Notizia. A voglia. Massacrato in che senso, mi scusi? Cioè, nel senso che ci hanno passato un numero di volte infinito, voglio dire. Prendendovi magari un po' in giro, così. Alla Striscia. Prendono in giro. Alla Striscia la Notizia. Senta, mi ha colpito una frase di Berlusconi pronunciata ieri a San Siro, in cui a un certo punto Berlusconi, rispondendo a una domanda di un giornalista che gli chiedeva, si è passati, diciamo, dalla denigrazione dei tifosi del Milan all'elogio, no, al trionfo, questa cosa di Ibrahimovic, a un certo punto Berlusconi ha detto: le masse sono sempre ingrate. Anche lei la pensa così, Picella? Le masse sono sempre ingrate. Sono per definizione, le masse sono sempre ingrate. Anche lei trova che le masse siano sempre ingrate anche nei confronti del Premier? Ma guardi, non sempre, però a volte diciamo che è così. A volte è così. Una cosa banale, per esempio, se lei il mese di agosto va a fare le vacanze, non si diverte mica come le facesse a settembre, per esempio. Perché il mese di agosto c'è la massa dappertutto, voglio dire. Dunque è un po' più scomodo. Che c'entra con l'ingratitudine? È una cosa banale, voglio dire. No? Cioè, ma l'ingratitudine delle masse, anche lei nota che le masse siano ingrate nei confronti del Premier e di quello che fa Berlusconi per l'Italia? Ah, vabbè, su questo sono anni ormai, cioè, non è una cosa nuova. Diciamo, è bersagliato, è un po' massacrato dappertutto. Ma lei per Fini canterebbe, per esempio? Io canterei per tutti, basta che mi pagano. Ah beh, questo è evidente e anche giusto. Perché lei allora, scusi, guardi, faccio questo mestiere, per cui canterei per tutti, non è un problema per me, l'importante è essere retribuito. Ah beh, su questo, dunque, anche se la invitasse, non succederà mai, per carità, in un ricevimento, in un'occasione, il Presidente della Camera, lei ci andrebbe volentieri, che gliene frega del litigio tra Fini e Berlusconi? Retribuito sì, anche perché sono cose loro, io non c'entro niente. Certo, ma ho letto un articolo l'altro giorno sul Libero, cara Picella, in cui pare che alcune delle canzoni, se non tutte, scritte da Berlusconi per il nuovo disco, quello che uscirà a ottobre, sono delle canzoni ispirate ai divorzi dell'anno, cioè i divorzi con la moglie, col presidente della Camera. No, mi scusi, che cos'è questa? Una cretinata pura. Proprio nulla, cioè il titolo di Libero l'altro giorno, Silvio fa un disco per cantare i divorzi dell'anno, è una stronzata pazzesca. Ma assolutamente, ma una stronzata proprio madornale. Eppure Libero scrive queste stronzate madornali, può succedere, per carità. E che c'entra? Uno mica può impedire di scrivere le stronzate. È un giornale libero, no? Si chiama proprio Libero. Esatto, sì. È libero di scrivere le stronzate, dice lei, no? No, non ho detto che scrive le stronzate, guarda, ho detto che può eccedere a volte. Si vede che l'ha fatto anche stavolta. Dunque, se tu non fossi... Ma come tutti i giornali, perché io quando faccio un'intervista, ecco, io avrei proprio veramente il desiderio di vedere un mio articolo o che parlino di un mio disco, dell'uscita di un mio disco nella pagina degli spettacoli. Invece io sono sempre nella pagina politica, non ho capito perché. Facendo un altro mestiere, io di politica non intendo, voglio dire, non ho capito. Però insomma non si deve stupire di questo, lei insomma è sempre tra virgolette accoppiato al Presidente del Consiglio, è stata anche, non dico la sua fortuna perché lei è comunque un bravo cantante, però insomma sicuramente per lei non è stato ma diciamo che in parte è stata anche la mia fortuna, ecco, appunto, anche se trovo sempre degli ostacoli per questo pregiudizio, è una cosa che tipo di ostacoli, mi scusi, accetto, voglio dire, però proprio lo sfizio di vedere un mio articolo nella, sulla pagina degli spettacoli. Cioè la vedo o nel caso, o nella curiosità, o nella pagina politica. Cioè, voglio dire, io che non mi sono mai occupato di politica, non capisco una banana di politica, voglio dire, perché sono destinato, che quella volta che devo uscire a apparire sui giornali, devo essere in una pagina politica, tutto qua. E vabbè, Picella, però questo magari le serve, non è detto. Mi serve. No, ma gli ostacoli che lei incontra, gli ostacoli quali sono? Non ho capito ancora questi ostacoli. No, ma gli ostacoli possono essere tantissimi, guardi. Mi faccia un esempio di un ostacolo. Ma io faccio un esempio, una produzione, per esempio, che non gli è simpatico Berlusconi, io non approderò mai. Vabbè, ce ne sono tante altre che magari, no, a cui può approdare, o no? No, guardi, nemmeno quello. Guardi, lei vive tutti i giorni in trasmissione? Beh, io sono tutti i giorni in trasmissione, sì, da lunedì al venerdì. No, dico, lei mi vede tutti i giorni in trasmissione? No, mica dico che lei è presente ovunque. Cioè, lei sta dicendo che la sua amicizia con Berlusconi, il suo rapporto con Berlusconi, le crea ostacoli anche paradossalmente nelle televisioni, diciamo, vicine, tra virgolette, a Berlusconi? È inevitabile. Cioè lei dice non va a media, per esempio, le faccio un esempio molto diretto, lei a Mediaset incontra ostacoli? Io ho incontrato ostacoli, io quando ho fatto la promozione del mio terzo disco ci sono state moltissime trasmissioni di Mediaset che non hanno accettato la promozione, in Rai me ne hanno accettate quasi una trentina, per cui... Sì, e questo secondo lei per quale motivo? Non ho capito. Per quale motivo secondo lei? Ah, non lo so... possono essere tantissimi motivi. Invidia? Invidia prima di tutto, voglio dire, io ho sentito persone anche ricche, che non gli manca niente ormai dalla vita, di dire tu sei fortunato, sei vicino al parente, lo conosci, hai la fortuna di conoscerlo. Cioè, voglio dire, c'è gente che farebbe di tutto, insomma. Invidia, soprattutto invidia. Ma io penso di sì, e poi è una bella situazione, è una bellissima amicizia, ma la gente non deve pensare che sia tutto oro quel che luccica, però. Vabbè, insomma, lei un po' di soldini... Deve mettere in conto anche un po' gli ostacoli, i problemi che io affronto quotidianamente. D'accordo, Picella, però insomma, questa, la storia della sua amicizia con Berlusconi, certamente a lei dal punto di vista, per esempio, economico, per carità, tutte cose legittime, no, per lei è stata una cosa positiva. Assolutamente sì, io non ho mai detto questa una cosa negativa, ci mancherebbe, mica sono un ipocrita, No, ma meno male, meno male. Non l'ho mai detto, guardi, ho sempre detto che è stato un vantaggio per me. Però, voglio dire, in questo vantaggio che il Padre Eterno mi ha mandato, in questa fortuna, come la vuole definire, sì, ci sono tanti ostacoli quotidianamente da superare, da cercare di superare, tutto qua. Amore, amore mio, buon amore, lo sai, non ti aspettavo proprio più. Teneva voglia pazzi di vedere. Ma in questo disco nuovo con Berlusconi, caro Apicella, lei che fa? Le canterà poi queste canzoni? Sì, certo. Sono scritte da Berlusconi. Ma non ci dico una cosa, non ci sarà la voce di Berlusconi, no? No, non c'è mai. Mai stata, non e non ci sarà, e non ci sarà. Non ci sarà. Anche perché? Stato, perché? Ma niente, perché dall'inizio. Già quando scrivemmo la prima canzone fu deciso, noi gli abbiamo chiesto più volte partecipare, anche i miei discografici. E come mai? Immagini discografici. Certo. Farebbe gola un po' a tutti, insomma. Però lui non l'ha mai accettato, non l'ha mai fatto. Voglio dire, dice no, a me piace scrivere le canzoni, tutto qua, insomma, non voglio fare il cantante. Per cui non ha mai accettato di mettere voce sui miei dischi o su altri dischi. Beh, insomma, è un vanitoso anche Berlusconi, poi pensa di cantare bene. No, assolutamente, non è un vanitoso, è uno che fa un altro mestiere, voglio dire. Cioè, non è però, tempo fa, ha detto anche una cosa, ricordo. Cioè, ha detto, io sono entrato nella storia della canzone napoletana. Perché noi abbiamo... Ma, insomma, questa è un po' grossa, o no? Ma, guardi, allora, si lasci spiegare un attimino. L'ha detto, secondo me, per questa cosa che è successa... all'uscita del primo disco, quando uscì il nostro primo disco Meglio una canzone, 7 brani mi pare di questo disco furono messi nell'archivio della canzone napoletana, la canzone napoletana, chiedo scusa, dalla SIAE. Per cui non è una cosa da poco, è una bellissima cosa questa. Dunque ecco, è vero, perché, secondo me ecco perché diceva quello. però a tutti è parso un po' esagerato, francamente. Comunque, vabbè, entrare nella storia della canzone napoletana. Caro Picelle, vorrei concludere, lei mi ha confermato questa cosa, il 9 ottobre uscirà questo disco, ancora non sappiamo il titolo, ci sono ancora incertezze, bisogna che io riveda Berlusconi, succederà, quando succederà? Quando ci sarà questo incontro finale per mettere il timbro sul disco? Ma spero i primi di settembre. I primi di settembre addirittura. Stay With Me, mi lanci ancora 10 secondi di Stay With Me, così do la parola al giornale. Stay with me, alla luce delle stelle, stay with me, risplende la tua pelle, stay with me, fino a che nasce il sole, resta qui, alla, e lasciami il tuo cuore, e lasciami il tuo amore. Mariana Picella, Giornale Radio, grazie. Siamo qui 19:18 del 30 agosto, 800 24 00 24 è il numero per chiamarci in diretta, fra poco ci metteremo in collegamento con voi, intanto i titoli del TG3. Gheddafi incontra Berlusconi, imbarazzo nel PDL per lo show del Rai su donna ed Islam, l'opposizione grave, il silenzio del governo. Gheddafi incontra altre 200 ragazze per parlare di Islam, ma sotto la tenda berbera anche di affari e di sistemi satellitari militari. Il dibattito sulla riforma elettorale, D'Alema rilancia, il sistema tedesco cecchito è solo tatticismo, la legge non si cambia. Inizia in Iraq il ritiro delle truppe americane, gli Stati Uniti se ne vanno vincitori sconfitti dopo una guerra di 7 anni e mai finita. Primi provvedimenti contro i medici coinvolti nella rissa all'ospedale di Messina. Il ministro si scusa, il padre e marito è una sceneggiata. Soccorre un'amica rapinata e ferita, fa arrestare gli aggressori, ma Sahabi è un tunisino irregolare, domani scatta l'espulsione. Corse clandestine in moto a 300 all'ora su una statale pugliese in pieno giorno tra gli automobilisti atterriti, 12 denunciati. Come si bella cavalla stu camello col vino, l'altra con la coda il bambino archile. Ue si curioso mentre scava stu portu, si scorda della non è cosa e caupatoria non c'è sta. Alla alla alla, ma chi t'ha fatto fa? Grazie David, a presto. Ti sei buttato già in piscina? Ci sentiamo direttore, dopo. No, adesso il sole sta tramontando. Fantastico. A presto. Ecco questo. A presto. Un bacio dove vuoi. Parenzo, perché tutti sono indignati? Eccomi. Perché? Bentornato. Bentornato. Dove non sei più sul bordo della piscina di Siena, bensì negli studi della 7, alle prese con un montaggio su Gheddafi. Perché io non sono indignato per Gheddafi? Spiega, ma sono troppo cinico, lo so troppo cinico. Sto aspettando il debutto del direttore Mentana. Certo, è vero, alle 20, alle 20. Circondato anch'io da 3 amazzoni della redazione. Sei trepidante? Molto trepidante. Devo dire che tu con le musiche sei sempre ficcante, Caravan Petrol, Caravan Petrol. T'ho dato uno spunto su Caravan Petrol. Però perché io non mi indigno per la visita di Gheddafi, per le Amazzoni, per quello che ha detto? Che ha detto? L'Islam è la religione d'Europa, trattiamo le donne meglio di noi. Non mi indigno, non dico che è folklore, però non ce la faccio a indignarmi. Ma non bisogna indignarsi. E che bisogna fare? Perché bisogna rimettere le cose a posto. Gheddafi è come l'Epifania, tutte le feste porta via. Cioè sappiamo che arriva Gheddafi e arriva l'autunno, entra l'autunno, capito? Questo è un po'... Ma è vero, come dicono alcuni anche nei blog, su Facebook, eccetera, e lo dicono indignati, da noi si può permettere delle cose che altrove non si potrebbe permettere. Questo è un po' vero o no? Bisognerebbe dire che il primo che, diciamo così, ha intrecciato rapporti con Gheddafi è stato anche il governo Prodi, quindi per me, forse l'avete già detto nella prima trasmissione. No, che no, non l'abbiamo detto, ma anche se l'avessimo detto, lo dici tu. Ha avuto rapporti intensi con la Libia, credo che Unicredit, tra l'altro il banchiere, sia di area di centrosinistra, quindi voglio dire, qui bisognerebbe rimettere un po' le cose a posto, per cui ha ragione secondo me Feltri quando ha scritto oggi su, ieri anzi sul giornale, dice sai, gli affari alla fine sono affari, si è fatto anche di peggio in passato, fa sorridere un po' tutto questo caravanserraglio che si porta dietro, però cosa vuoi, è l'Italia, anche esatto. I finiani hanno ragione però quando dicono che è un po' Disneyland, no? Sì, però è così, cioè, non è drammatico. Però è Disneyland. È Disneyland. È un cioè personaggio... in Francia lo potrebbe fare? Forse manco sarebbe invitato in Francia, diciamo. Sai cos'è la cosa che più mi stupisce? È che ha dovuto convocare 200 hostess pagate per sentire la sua lezione sul Corano. Cioè la cosa assurda è che se lui, non so, avesse detto io domani sono all'università a Roma, incontro gli studenti, secondo me sarebbero andati in tantissimi. Sì, no? Sì, migliaia, migliaia. Se non altro per curiosità, anche allo stadio olimpico pieno di romani. Beh, sarebbe fantastico, come il Papa, lo stadio sì, con decine di persone. Ha dovuto pagare, c'è cioè una cosa drammatica, ha dovuto pagare delle comparse, e questa è la cosa forse più curiosa. Perché è più facile ricerca. Controllare le persone, naturalmente, forse è più facile anche vendere poi questo prodotto sulla televisione libica, così dicono resta lì. Come si bella cavalla stugamella gobbino glattra con la turban di un archine. Sallusti ti faccio sentire, Parenzo, Sallusti, perché hai citato Feltri. È come il Papa in Africa, senti? È un po' esagerato, eh? Non capisco perché se Berlusconi tace, nel senso che non contesta le parole di Gheddafi, che tra l'altro, ripeto, non sono parole insultanti, è come quando il Papa va in Africa e invita gli africani a convertirsi al cristianesimo, non è che lo devono buttare fuori a calci nel sedere. E poi Pannella, povero Islam, si è affidato al colonnello Gheddafi. Povero Islam, io lo vorrei difendere un po', fare dell'Islam il grande... promotore, il crociato dell'Islam, questo qui è un'offesa all'Islam, mi pare, ho l'impressione o no? Ah sì, anche la sua fede. La fede. Le hostess poi, Pannella, sentite. Ci ha fatto sentire regine, dice una di queste ragazze, di queste hostess che è andata a riceverlo, che Gheddafi sbarca a Roma. Beh, c'ha ragione, scusami. Lui ha proclamato che grazie all'aiuto di Berlusconi adesso è divenuto il re dell'Africa, ha detto Gheddafi, sì. E quindi giustamente le ha fatte sentire regine, a livello delle monarchie berlusconiane, diciamo. E vabbè, caro Parenzo, siamo così, siamo così. C'ha ragione Giacinto, detto Marco Vannella. Ha sempre ragione, ha sempre. Non ha neanche tossito. Fatto la solita tosse radicale, liberale, libertaria, non l'ha fatta questa volta la tosse, quindi... Vabbè, che stai facendo su Gheddafi? Ma abbiamo montato una copertina piuttosto suggestiva di Berlusconi e Gheddafi, te lo anticipo, insieme, sì. Partendo dal pezzo di Merlo di oggi su Repubblica che ho trovato... Che è molto indignato, davvero, sì, indignato però anche ironico, quindi io ho usato soltanto l'ironia, non l'indignazione, come registro retorico, sì. E quindi abbiamo montato un Berlusca e un Gheddafi in situazioni analoghe, quindi Berlusca tra la folla, Gheddafi tra la folla, Berlusca con la bandana in testa, il buon Gheddafi con quella foto strepitosa della prima visita che fece lì vestito come una comparsa di Cinecittà in Ben Hur, no, forse con tutta quella faccia gonfia, sì, poverina, sì. Abbiamo montato un po' una cosetta così e poi abbiamo chiuso con la musica con tutte le ragazze, sono tremendo, Gheddafi ci vanno dalle hostess e Berlusca dalle bellissime donne che in genere lo seguono. Vabbè, il pezzo di Merlo in realtà era un paragone, Berlusconi uguale Pinochet, Videla, Ceausescu, Enver Hoxha, Pol Pot, Kim Il-sung, non è l'ideologia. Leggermente eccessivo, mi piaceva di più questo accostamento più emotivo, no? sui segni del simbolo del berlusconismo e i simboli del gheddafismo, non so, i cavalli che stasera sfrecceranno a Tor di Quinto e il vulcano di Villa Certosa. Ecco, io avrei un accostamento più simile a questo. Non l'asse internazionale della satrapia, insomma. No, questo mi sembra un po' eccessivo, anche perché la satrapia è una roba seria, Gheddafi un po' meno, no? Cioè, vai! Ai ai ai ai ai. Riflusso siamo tornati nel privato, nel quotidiano ognuno sfoga le nevrosi, va bene tutto anche se non funziona niente, ma c'è una smorfia sulla faccia della gente, quando finisce la paura e lo sgomento, A chi si incazza io gli faccio un monumento. Beh, hai ragione, perché Pannella, questa mattina ospite del caffè di Mineo, era scatenato. Caro Parenzo, capita, ogni tanto uno invita la mattina presto Pannella e ottiene grandi risultati. Grandi risultati. Perché, bella sveglia. Perché Pannella o è in forma e allora vedi, sbuffa, fa, dice, fa battute, si incazza, oppure... è troppo lungo. Come Gheddafi che spiega il Corano, uguale. voglio bene a Pannella, lo reputo uno dei politici. È vero, qualche volta è di una noia mortale. Gheddafi che spiega il Corano, queste povere 200 volte, ma sai che qualcuna se n'è andata? La notizia vera è che queste qui, nonostante. Poche. No, ho capito, ma hanno ricevuto il gettone di presenza. Cioè, pure non ce la facciamo più, basta, fateci uscire. E questa è la vera cifra di quello che sta accadendo in queste ore. Però rispetto, diciamo la verità, rispetto al teatrino della politica italiana, Gheddafi giganteggia. Almeno è teatrino vero, è teatro allo stato puro, capito? Cioè, io questo dico. Per questo non una mi maschera, una vera maschera. Io non mi indigno anche per questo, perché rispetto al teatrino quotidiano della politica italiana, che ci offre sempre le stesse cose, peraltro strepitose, su cui noi lavoriamo e ci divertiamo, Gheddafi almeno è proprio, cioè, una prosa gigantesca, cioè, questo è il punto. Insieme a Pannella, per carità, anche lui grande maschera. Per esempio, colonnelli al massimo sono caporali. Sentite. I colonnelli, tra l'altro, poi dico un po' di rispetto per l'esercito, io sono antimilitarista, ma chiamare quelli colonnelli sono dei caporali. Sì, il nostro gergo è insopportabile, dai. Era in forma, era in forma. Il grande, questa fa il pari con la mitica frase di Pannella, lo disse ad Eisner, ma anche in altri contesti. Sono talmente incapaci che sono capaci di tutto. Grandioso. Feltri, incazzato chi? Stasera ospite in onda con Gad Lerner. Feltri, certo. Sentite Pannella come lo definisce. Il problema è che se Feltri si incazza, chiedo scusa, però davvero tutti i giorni la moglie, la suocera, il figlio e via dicendo, per lì, allora per un tantino magari senta Radio Radicale, noi gliene forniamo tante cose così che possiamo dire sulle verità di regime. Sicuramente Feltri, una persona di carattere importante, non può ridursi ad apparire un killer, che non è, perché lui le fa in proprio queste cose, sono le sue scelte. Così le vittime riempiono le galere, mentre chi spaccia. Vabbè, abbiamo la borsa, e però se Feltri ascoltasse Radio Radicale di giorno, perché ha detto con tutto il rispetto, non farebbe il direttore del giornale, forse. Borsa, va, torniamo. Davide, resta lì perché ancora hai qualche minuto per noi. Lo so, non mi tradire, tra poco. Eccoci, 19:33, 800 24 00 24, sempre in collegamento con Roma, con il formidabile David Parenzo. Eccoci qui, caro troppo. David, no, non troppo. Io sono convinto di una cosa, adesso non lo dico perché ci conosciamo. Dico che lo dico anche per il bacio. Lo dico, insomma. Qui abbiamo conduttore, trattasi di conduttore televisivo che fra poco tornerà, per carità, detto con tutto il rispetto del posto in cui tornerà, eccetera, eccetera, magari lui non gli frega niente, che insomma, signori, ma ce ne vogliamo accorgere che non è che... merita qualcosa. Mi imbarazzi se mi metti no. Così. Vabbè, insomma, ricordaci innanzitutto dove vai a parare. Mi cade il Cerone. Dove vai a parare a settembre? Vado a parare su 7 Gold con una televisione che si chiamerà Titanic Italia. Che abbiamo già detto durante l'estate, per chi si fosse messo in collegamento con la Zanzara per questa, come dire, il 30 di agosto, ma so che non è così. Non è possibile, però è possibile che abbiamo preso nuovi ascoltatori, anzi sicuramente abbiamo preso nuovi ascoltatori, che Titanic Italia trattasi di un bellissimo titolo e di una trasmissione che vedremo se sarà bella o no, magari farà schifo. Questo aspetteremo i giudizi del pubblico, assolutamente. Il tuo, quello di tutti, come sempre deve essere nel nostro lavoro. E dal... Dunque, dal 23 di settembre, quindi siamo in prossimità. Ti sei spostato un'altra volta, prima era il 16, era? No, 23 settembre. Sempre stato 23 settembre. Vabbè, David, qualche ascoltatore, che dici? Li facciamo entrare questi ascoltatori? Sì, facciamoli entrare. Sentiamoli. No, sentiamoli. Claudio da Milano. Buonasera. Commenti su Gheddafi. Prego. Io la leggerei in questo modo. Gheddafi è senz'altro scaltro. Si propone veramente come capo dell'Islam, visto che l'Islam ha bisogno di un capo, che secondo me oggi non c'è, e perciò lanciando questi messaggi di islamizzazione dell'Europa e la donna è trattata meglio, eccetera, diciamo che non ha intenzioni offensive verso il nostro paese o verso l'Occidente, ma è un po' come parlare a Moro perché suocera intenda, insomma, è un po' come lanciarsi come un islamico che ha il coraggio di andare in Occidente e portare la voce dell'Islam. Mm. Secondo me è un ragionamento politico furbo, attento, e va visto in questo modo, la vedo così. Grazie Claudio, sentiamo Prego. Il parere di Pierluigi da Lucca, non so su che cosa. Pierluigi, dica. Sì, buonasera Cruciani, salve. Lei si indigna per Gheddafi? No, mi diverte, anzi, si un diverte. Po' come lei. Però sì, qualcuno che si indigna per Gheddafi ci chiamasse, ci deve chiamare qualcuno indignato per Gheddafi dicendo Cruciani è uno stronzo perché non si indigna per Gheddafi. No, io sono indignato invece per Sallusti, perché ho sentito la dichiarazione prima di un lancio d'agenzia quando paragonava, diciamo, Gheddafi al Papa, dicendo che Gheddafi da noi sostanzialmente è come il Papa quando va in Africa, no? Cioè non lo cacciano, non lo cacciano. No, quando a calci nel sedere, dall'altra detto. Tra l'altro, voglio dire, per io ho pensato che fosse così stupida questa dichiarazione da rasentare, come definirla, naif, no? Perché dopo il caso Boffo forse avrò bisogno di ricucire un po' con Oltretevere. Non so se Berlusconi è tanto contento di questa sparata di Sallusti. Poi ho ascoltato la viva voce di Sallusti e il tono sprivo di ironia, con quella cadenza lombarda, professorale, che dopo ribadia queste cose, era veramente Vabbè, adesso spazzoso. Lasciamo perdere il tono di Sallusti. Cioè, scusi, però Sallusti dice una cosa, non bisogna indignarsi per il fatto che Gheddafi è un dittatore, dice le cose che dice, c'è tutta la cosa folcloristica dietro, perché con la Libia bisogna fare gli affari, bisogna proteggersi dagli immigrati clandestini, eccetera. Ma non ha detto questo, ha fatto una proprietà transitiva col Papa. Quella sul Papa effettivamente è un po' eccessiva, insomma, lei ha ragione. Ridico, cioè, non è l'ultimo cretino, è il vice direttore del giornale, ma questi veramente si sono bevuti il cervello. C'è bisogno di buttare acqua sul fuoco nei rapporti col Vaticano, con l'Otretevere, questi dicono una cosa che se la legheranno al dito, questo è peggio di Boffo. Ma adesso non è che il Vaticano stanno lì a vedere le dichiarazioni di Sallusti o le cose che scrive Sallusti sul giornale. Sì, poi aspettiamo qualche lancio i prossimi giorni su Avvenire, vedrà che qualche risposta ci sarà. Va bene, grazie Pierluigi. Caro Parenzo, ti faccio ascoltare una cosa, perché qui siamo riusciti a spillare, a tirare fuori da Mariano Picella il testo, anzi i versi di una delle canzoni composte da Berlusconi, Stay With Me. Stay with me, alla luce delle stelle, stay with me, risplende la tua pelle, stay with me, fino a che nasce il sole, resta qui, e lasciami il tuo cuore, e lasciami il tuo amore, stay with me. Amore, amore mio, mon amour, o sai, non ti aspettavo proprio più, e te volevo scrivere una lettera però. Hai capito? Erano le prime strofe di Stay With Me. No, questo non è Barbato, questo è sempre Picella. Appunto, io preferisco Barbato. Meglio Barbato, dici, meglio Barbato di Apicella. No, Apicella canta bene, per carità. Delle parole di Berlusconi, Stay With Me. Pare che il titolo Stay With Me sia stato scelto esplicitamente da Berlusconi. Io ho detto a Picella, ma non mi pare una cosa particolarmente così geniale. Lui pure ha detto sì, effettivamente non è molto meglio originale. Sarebbe stato Stay Behind, con un grande omaggio a Cossiga, però sai, sulla questione di Sallusti invece in parte ha ragione come interlocutore, perché mi sarei aspettato cosa diversa dal cattolicissimo Sallusti. Cioè, vista la sua tradizione, la sua storia, eccetera, rispetto all'Islam, viste le paginate che lui ha fatto ponendo il problema dell'avanzata islamica, io forse mi sarei aspettato, come dire, un registro diverso. E mi chiedo, se al posto di Berlusconi ci fosse stato Romano Prodi, ad esempio, ma che culo gli avrebbero fatto quelli del centro-destra con la tenda l'anno scorso, con i cavalli berberi? Beh sì, secondo me il centro-destra molto, assolutamente. E invece oggi, per ragioni di realpolitik, sono tutti a baciare non la pantofola, ma come si dice, la divisa al colonnello. È così, sicuramente non abbiamo la prova provata, naturalmente, che i giornali vicino al centrodestra si sarebbero indignati, avrebbero fatto articoli di fuoco contro il Moro invitato da Prodi in Italia, però insomma, diciamo, avrebbero titolato Gheddafi insulta il cristianesimo. Bisognerebbe andare a ripescare qualche titolo all'epoca in cui ci furono dei contatti anche molto intensi, no, tra Prodi e il riavvicinamento. Male, dissero addirittura che stanno svendendo il paese alla Libia, dissero. Può essere, quando, può infatti essere. Oggi uno dei temi importanti invece è proprio questo dal punto di vista economico, no? Unicredit, Finmeccanica, la Juve, tanti pezzi di asset strategici dell'Italia finiscono in mani libiche, giusto o sbagliato che sia, è così. Questa dovrebbe essere la discussione, non i cavalli, le hostess. E che però sono molto divertenti, le hostess, molto. Cinzia da Milano, per esempio, che dice? Cinzia. Eccomi, buonasera. Eccoci qua, buonasera. Complimenti per la trasmissione. Io vi ascolto sempre quando rientro dall'ufficio e stasera ho sentito che lei dice io non riesco a indignarmi. Riesco a indignarmi, che devo fare? Ecco, allora volevo chiederle, è contento, le fa piacere vedere questo show? No, lo osservo da lontano e mi metto a ridere, mi diverte moltissimo. Oggi abbiamo un argomento fantastico, tutta questa gheddafia, le gheddafine, il circo, i cavalli, la tenda. E dice, ma va che bella immagine che abbiamo all'estero, va, ridiamo noi, ridono loro, ridiamo tutti. Ma non lo so, l'immagine all'estero è una cosa complessa, l'immagine all'estero, comunque troppo difficile. Troppo difficile, argomenti troppo complicati. Ma come li vede questi due anzianotti qua, due giocherelloni? Lei dice Gheddafi e Berlusconi? Insomma, vanno per gli 80 tutti e due, sono più vicini agli 80 che ai 70, due anzianotti che si concedono, forse perché vedono vicina la fine, dicono si concedono qualche divertimento. Mi ricorda quel film, di quei due Jack Nicholson e quel Freeman che vicini alla morte si concedono le ultime follie, così anche noi ridiamo tutti. Va. Ma lei lo dice così in senso ironico oppure perché è incazzata sul serio per questa cosa di Gheddafi? Ma no, non sono arrabbiata, cioè credo che sia una pagliacciata che il nostro paese non si merita, ecco, però se sono contenti, la maggioranza degli italiani è contenta. No, oggi ne ho sentita una straordinaria. Mi faccio contenta anch'io, divento contenta anch'io, rido stasera. Parenzo, ho sentito una cosa strepitosa oggi, ho letto credo da qualche parte, forse su Spinoza, Gheddafi ha invitato 500 hostess in due giorni, Berlusconi disperato, io soltanto due, una cosa del genere. No, ma io credo che Berlusconi bravo che ha toccato questo punto. La perché? Mia domanda è, ma chi le ha pagate queste ragazze? È un'agenzia. Lui? No, l'agenzia non lui. Credo Gheddafi, che paghi. No, ma attenzione, oggi lei dice Berlusconi ha pagato l'agenzia per Gheddafi, lei, questo è quello che vuole dire lei, Cinzia. No, l'agenzia le ha fornite e su questo siamo d'accordo. Io voglio sapere chi ha pagato l'agenzia. Appunto, la sua idea è che l'abbia pagata Berlusconi? No, che l'abbiamo pagata noi italiani, è peggio. No, italiani chi? Se l'avesse pagato Berlusconi, io sarei felice. Ma non ce li hai i soldini, che la paghiamo noi. No, Parenzo dice, guardi Cinzia, i soldini il colonnello ce l'ha, Chi? No, non sono quelli che gli mancano i soldini al colonnello. Quello quando respira puta petrolio. Quindi abbiamo dato due anni fa. Però io credo che queste persone che ne hanno così tante, mi riferisco ai due allegri anzianotti, poi non hanno ritegno a prenderli da noi. Ma adesso Cinzia, questo non esageriamo. Beh, insomma, adesso questo nostro Presidente del Consiglio, tutte le sue amichette le mette a libro paga nostro. Ma no, adesso Parenzo, aiutami insomma, tu. Tutte queste ministre, fanciulle, non è arte né parte, fanno le ministre, lui gli fa un favore, però noi paghiamo, sbaglio. Parenzo, intervienimi tu, ti prego. Ma che vuoi che le dica? La selezione della classe dirigente, sì, è un problema di questo paese, però non è che le paghiamo, non è che la Prima Repubblica, Gino Paoli, quando a sinistra si candidarono uomini dello spettacolo, no? Nessuno si indignò più di tanto. Qui ci sono anche delle donne di spettacolo che però hanno dimostrato di saper fare anche molto degnamente le ministre, meglio magari di altri maschietti invece. Cioè, io preferisco mille volte la ministra Carfagna a Denis Verdini, ad esempio, no? Eppure Carfagna ha un suo percorso artistico dignitosissimo, di donna che si è messa a studiare, poi si è laureata e fa il ministro delle pari opportunità, secondo me, in modo senza da invidiare nulla alle altre sue colleghe di centro-sinistra, mi pare, tant'è che è stata anche elogiata da Melandri. Senti, Davide, perché la Lega, che tu conosci bene, su questa cosa della visita di Gheddafi vola basso rispetto... Stanno mordendo le mani. Dici, hanno proprio le mani tutte in bocca, tranne il buon Borghezio, che diciamo è l'unico... Eccolo autorità. Però, aspetta, fermati, eccolo qui, onorevole Borghezio, Marione. Buonasera. Dov'è? Anche lei che c'ha le mani in bocca, come dice Parenzo, lei, su Gheddafi? No, assolutamente no, perché la posizione, secondo me, deve essere è molto chiara, cioè sì alla Realpolitik di Maroni, che ovviamente... è riuscito a, nell'impresa che sembrava impossibile, con i vecchi governi di sinistra dicevano è impossibile fermare gli sbarchi, invece con gli accordi, e a lei il fatto, scusi un attimo, Borghezio, scusi però, un attimo, lei però, dice però c'è un però. Qual è il però? Il però è quando questo capo di Stato straniero, noto per la sua arroganza e la sua maleducazione, viene... cioè lei lo definisce oggi, c'è la visita ufficiale, Borghezio, dobbiamo essere un po'... E lei dice, Gheddafi, due punti, arrogante e maleducato. Ma guardi che questa mattina io sono stato svegliato alla Radio Svizzera e la prima domanda è stata quella specie di bandito di Gheddafi, questa è... come gli ma chi l'ha detto, lei o gli svizzeri? Quindi guardi, io sono un moderato al confronto della Repubblica Svizzera e io dico questo, però molta attenzione, le nostre autorità devono tener conto, in grande conto, la pericolosità delle tesi esposte da Gheddafi sulla islamizzazione dell'Europa, perché è esattamente quello che noi e dopo di noi con grande forza e anche grande coraggio Oriana Fallaci denunciò. Cioè, ho capito, però Borghezio, non è che l'ho invitato io Gheddafi a Roma con le tende a dire quelle cose, l'ha invitato il suo governo. Nei rapporti internazionali si invita chi rappresenta un paese, chi ha potere di decidere, quindi hanno invitato Gheddafi e ce lo dobbiamo subire. Però ma lei come lo definisce? Come lo definirebbe? Mi dia una sua definizione di Borghezio. È un personaggio difficile da definire in maniera icastica. Certamente io dico che è un uomo la cui filosofia politica assomiglia a quella dei mercanti di tappeti. Filosofia personale e quindi massima diffidenza, cioè prudenza all'ennesima potenza. E gli affari vanno bene? Gli affari vanno bene? Si possono fare accordi, ma sapendo con chi si ha a che fare. Lei ricorda l'episodio di Casanova, quando Casanova scopre il suo servo rubare e non lo licenzia, il servo dice ma come mai non mi licenzi, cioè, e Casanova risponde sì, prima ti trattavo da servo, ora ti tratto da ladro, e noi dobbiamo fare la stessa cosa. Dunque Parezzo, quindi arrestarlo, no, dobbiamo prima firmare l'accordo e poi cacciarlo, come direbbe lei, la calcio, diciamo che ci vogliono le mutande di Ghisa con questi personaggi. Mi sa che Borghezio non la pezza come Berlusconi su Gheddafi, Parezzo. Grande, Borghezio, ma io vorrei sapere un attimo, Borghezio, si fermi un attimo. Berlusconi è talmente avveduto che può trattare con chiunque, quindi questo punto di vista non ci sono problemi. Da questo punto di vista non ci sono problemi. Parenzo, che mi dici? No, dico che Borghezio è come sempre diretto e chiaro, quindi non è che questa volta, come dire, si è trattenuto, anzi, io sono convinto che buona parte dei leghisti la pensi come Borghezio, dall'altra parte, siccome loro hanno una realpolitik e al primo posto mettono il tema dei clandestini e dell'immigrazione, sanno che il prezzo da pagare è questa roba qui. Dopodiché, però io aggiungerei una cosa. Se è vero, io oggi a Radio Padania sentivo un po' di commenti pesantucci, mi hanno sullo. Sì, però io aggiungerei una cosa, se è vero o come è vero, che a noi interessa molto, e Dio sa quanto motivatamente, il blocco degli sbarchi, beh, io devo dire che deve esserci altrettanta preoccupazione, perché siamo una nazione cristiana, nel controllare e nel richiedere garanzie su come vengono trattati quei poveracci che Gheddafi poi trattiene nei suoi campi. Lei mi sta dicendo, Borghezio, che scusi un attimo, Borghezio, mi sta dicendo che Mario Borghezio è seriamente preoccupato di che fine fanno quei poveracci, certo, respinti alle frontiere. Noi non vogliamo gli sbarchi, ma io penso che, essendo delle persone civili, e noi leghisti siamo delle persone civili, dobbiamo anche farci carico, da un punto di vista morale, di quella che è il destino di questi poveracci che poi vengono trattenuti nei campi di... E questa ONU, queste organizzazioni internazionali, l'organizzazione dell'unità africana, questi esempi di democrazia e di civiltà che governano gli stati africani, perché non vanno a controllare come vengono, perché non ce li fanno entrare i loro condannati, mica sono, ma non ce li fanno entrare, Borghezio, non ce li fanno entrare nei campi di... Non campi li fanno entrare, Borghezio, non li fanno entrare. Senta, dove si trova lei, Borghezio? Se non li fanno entrare, quando ci sono le riunioni dell'Organizzazione Unita Africana, non devono eleggere Gheddafi presidente. Ma sa che gliene frega? I democratici e antirazzisti che governano i paesi africani. Sì, ha ragione però Parenzo su questo. Solo che queste cose le dico io al Parlamento Europeo. Un attimo, Borghezio, non vi sovrapponete, Parenzo. No, sono convinto che se al posto di Berlusconi ci fosse stato Prodi o peggio Veltroni, oggi avremo Roma invasa da una manifestazione di camicie verdi che giustamente starebbe lì a protestare, anzi a picchettare la tenda del colonnello. Su questo io non ho dubbi proprio. Conosco la politica e so che però ci sono queste dinamiche che poi scattano, no? Per cui siccome loro sono al governo, giustamente il governo vuol dire prendere delle decisioni anche impopolari, anche contro la propria base. Borghezio, lei dov'è in questo momento? Dove si trova? Sono a casa. A casa dove? In Italia? Sono a casa a Torino, io sono Torino. Torinese. No, no, nella perché... città che l'immigrazione ha ridotto così come la viviamo. Esagerato adesso. Sai che ho... Io sono un vecchio torinese ormai, mi ricordo com'era Torino, 40 anni fa, mi ricordo. Beh, si stava meglio quando si stava peggio? Beh, era una città estremamente visibile, non adesso è peggiorato. Colpa dell'immigrazione. Secondo me è molto meglio, è molto meglio adesso Torino rispetto a 40 anni. Questa immigrazione le ha dato un bel colpo. No, era molto meglio quando io avevo 15-20 anni, era una città molto più... Lo possono giudicare gli altri è sempre meglio è sempre meglio quello che c'era prima, è sempre meglio la Prima Repubblica, è sempre meglio il calcio degli anni 80. No, è meglio... io dico dal punto di vista della vivibilità e poi per altri aspetti certamente... Parenzo, vogliamo chiedere una cosa a Borghezio su questa storia delle hostess. Borghezio, ma queste hostess secondo lei da dove vengono fuori? Queste hostess che vanno da Gheddafi? Ma verranno fuori penso da qualche agenzia e sa, qui una ragazza di quell'età che probabilmente fa solo dei lavori precari coglie l'occasione per andare a fare la sua professione, esercitare la sua professione. Ma non è Berlusconi? È direi piuttosto penoso che una ragazza per guadagnarsi un tozzo di pane deve andare a sentire i discorsi sul Corano di un signore come il Gheddafi. È piuttosto penoso, ma vede, meglio fare la velina, quindi nella vita anche queste esperienze meglio la velina o i discorsi di Gheddafi? Meglio la velina sicuramente. Borghezio, meglio senta, la però... velina perché la velina ha sicuramente, facendo la velina una signorina può acquisire delle competenze professionali. Sentendo i discorsi di Gheddafi, a me personalmente conviene perché dopo voterà la Lega, ma dal punto di vista professionale non ne ha delle migliori. Perché dice che porta lo spirito cristiano? Perché dice che voterà la Lega? Perché dice? Una che sente il discorso secondo il quale l'augurio che l'Europa deve essere islamizzata, se non ci ha pensato prima, a quel punto dice, ma quel matto di Borghezio forse non è così matto. Borghezio, un attimo, resti lì. Ciao David, so che devi andare. Ci sentiamo presto, professore. Ci sentiamo presto. Manderai sicuramente in onda. Eccolo grazie qui, già mi sintonizzo, però insomma nei prossimi giorni ti aspettiamo, mica fuggi. Noi siamo qui. Siamo qui anche baci. No, ripetilo, ti prego, ripetilo. Baci, baci radicali. Anche il colpo di tosse. Anche il colpo di tosse ci vuole. David Parenzo, grazie. Borghezio, buonanotte. Borghezio, resti lì. Che sta facendo in questo momento? A casa, a che fare? Stavo leggendo, a dire la verità. Leggendo cosa? Stavo leggendo dei vecchi numeri del Candido. E soprattutto stavo gustandomi le vecchie vignette di Mosca e Guareschi. Io adoro la grafica umoristica, anche in generale la grafica politica, la satira politica, e sono un fan di Crancic. Me ne lega una che ha davanti agli occhi. Aspetti, li apro perché li avevo chiusi e sono numeri un po' datati. Così ci fa piacere. C'era, momenti di vita reale. Tutto. Mario Borghezio a casa sua a Torino che legge la sera alle 19:53 invece di aspettare il TG di Mentana. Penso che se ne freghi lei, Borghezio, del TG di Mentana. No, perché mi hanno intervistato oggi su Gheddafi, quindi lo vedrai anche con piacere. Anzi, lo però sentirà qui alla radio con noi. Però voglio che mi legga una cosa di del Candido. Perché credo Manzoni la firma e si vede un tipo che agita un tricolorino, un altro bruttino con la bandiera con la faccia martello. E uno, il patriota, dice viva l'Italia, e l'altro dice la denuncio per apologia di fascismo e vilipendio la resistenza, al Senato, si vede, si riferisce a qualche episodio del Senato. Un'altra c'è un enorme elefante, anche questa di Manzoni, e con un tizio che lo solletica con una piuma. La lotta contro il comunismo, vedi, Selva è passato alla maniera forte, adesso gli fa il solletico con una piuma di struzzo. È la critica del Candido al morbido, a quello che ritenevano morbido, certo, Selva, che invece è stato tra l'altro un grande presidente del Parlamento Europeo, è una figura che andrebbe... Scelba, Mario Scelba, considerato, sì, insomma, un durissimo... Ma sono questi... io ho una grande ammirazione per questi campioni della prima DC europeista, anticomunista. Beh, dunque lei è d'accordo anche con quel politico democristiano già pluricitato qui alla Zanzara, soprattutto ce l'ha ricordato il ministro Rotondi, che diceva, Florentino Sullo, adesso magari sarò urticante per qualche purista, il quale sosteneva una cosa molto semplice che si può applicare a diversi momenti della vita umana. Sosteneva cioè che le frasi dei politici, le parole dei politici, e lei è un politico, Borghezio, ma io sono un valgono, politico, valgono solamente per il momento in cui vengono dette, per i secondi in cui vengono pronunciate. Un secondo dopo, il giorno dopo, non valgono più. Cioè, le parole... Beh, questo è molto democristiano, però io penso che invece, al contrario, un politico quando parla deve pensare che le sue parole devono anche rimanere valide, magari per quando suo figlio le leggerà 20 anni dopo, 30 anni dopo. Ma lei l'avrebbe invitato che Daffi fosse stato per lei, Borghezio? Neanche se mi mettevano una pistola alla tempia. No, proprio così, eh. Però insomma, no, è il suo governo, Borghezio, è il suo governo qui che... Io le rispondo... È il suo governo che l'ha invitato, con tutti gli onori, i cavalli, le amazzoni... Ma sa, io in questo sono, diciamo, ho la prudenza dei vecchi democristiani. Ecco Mentana, sentiamo Mentana. Cominciamo non parteggio con troppo. Il nuovo TG serale della 7. Non è che cambiano le cose da ieri a oggi, evidentemente sempre cercheremo di fare informazione nel modo più completo, aperto e libero. Cambiano molte cose per me anche personalmente, cambia del resto anche come state già vedendo e forse avete già visto dalle altre edizioni, la scenografia cambierà, la sigla, cambieranno tante cose. Cercheremo però di mettercela tutta. Solo una parola per me personalmente, perché poi davvero le notizie sono la cosa più importante, i fatti personali meno. Mi sono sentito un po' come Cappuccetto Rosso per tutti gli in bocca al lupo che ho avuto durante la giornata. Grazie a tutti, davvero cerchiamo di farcela, cerchiamo di farlo bene, cerchiamo di proporci come scelta concorrenziale in questa edicola elettronica delle 20, delle 8 della sera. Ho parlato già fin troppo, me ne scuso, ci sono fatti importanti, la vicenda di Messina, lo scontro politico sul processo breve, la visita di Gheddafi e altri fatti di cronaca inquietanti. E allora dell'informazione. Sigla. Uno sospeso e l'altro licenziato. Scattano a Messina le sanzioni contro i ginecologi della rissa in sala parto. Sospeso anche il primario. Il ministro Fazio chiede scusa alla donna. L'intesa della maggioranza al centro della scena. D'accordo su tutto al 95%, ripetono i finiani. Ma quel 5% è il processo breve, indispensabile per il premier. Quindi sulla giustizia è già al bivio l'avventura di Futuro e Libertà. Tornare nei ranghi o andare avanti? L'abbiamo chiesto anche a due opinionisti, Facce Travaglio. La visita di Gheddafi in Italia tra cavalli berberi e schiere di Gheddafine, reclutate per lezioni coraniche, ma su affari e immigrazione il presidente libico stringe accordi con Berlusconi. Corse di moto su una statale a Gallipoli, bolidi lanciati a oltre 300 km all'ora. La finanza scopre un giro di scommesse e di folli gran premi clandestini. Forse l'odio razziale. Dietro la strage di Bratislava, un uomo, un ex poliziotto, massacra una famiglia rom di 7 persone, poi si uccide. Con sé aveva un piccolo arsenale. Dopo l'arrivo di Ibrahimovic, Borriello lascia il Milan e firma con la Juventus. Un inviato rossonero a Manchester per trattare Robinho e Moratti prepara un colpo anche per l'Inter, che gioca stasera. Era la 7 di Enrico Mentana, che conduce per la prima volta... Pubblicità, torniamo subito. Come si bella cavalla stuga nel copino, la trago il turbandio d'archile. Ue si curioso, mentre scava stu per tu, si scorda della nonna e cosa, e coppa d'oria non c'è sta. Alla, alla, alla. Ma chi t'ha fatto fa? Come si bella cavalla stuga nel copino, la trago il turbandio d'archile. ci ha anche fatto capire se volete andare in Libia in vacanza o a fare degli scambi culturali o a fare degli eventi italiani, mi raccomando, mettetevi in mostra. E tanto è vero che c'è stata questa cosa, tanto è vero che nelle prime file c'erano delle ragazze molto propense a dire, insomma, sono stata a Tripoli, voglio tornare a Tripoli, è bellissimo. E quando finivano di parlare, il leader libico diceva: prendete il nome e cognome della ragazza, penserò io personalmente a portarla in Libia, cose di questo tipo. E nelle ultime file, dove ero, ma dove fortunatamente ero io, si sentivano le ragazze e dicevano: c'è l'agenzia viaggi per questo. Ha detto che l'Islam potrebbe diventare la nuova religione di tutta Europa. Dobbiamo seguire lui, insomma, quindi ha detto di convertirsi. Una persona abbastanza seria e tranquilla. Comunque è stato molto interessante e istruttivo. Che impressione? Negativissimo. Negativissimo. Per l'argomento perché? Tutto, dall'argomento alle modalità. Ti ha consigliato di convertirvi all'Islam? Sì, assolutamente. Oh. Ha ripetuto questo tutto il tempo. Ha anche ripetuto questa frase che era veramente scioccante: venite in Libia e sposate gli uomini libici. Venite in Libia e sposate i libici. Venite in Libia e sposate i libici. L'avrà detto 100 volte ogni 5 minuti. Non voglio più scava. Ah, come so bella cavalla tu. Se invece il presidente ritorna. Ma io sono in politica, quindi ne sento di tutti i colori, anche di peggio, quindi posso dire che non ho pensato a nulla. L'ingratitudine fa parte delle masse, quindi. Berlusconi è uno che non tollera assolutamente la presenza di un vero. Allah, Allah, Allah. Caro Borghezio, l'ho messa per lei questa. Allah, Allah, Allah. Ma c'è una sura del Corano, sì? Che il colonnello si è ben guardato da citare e che dice che Allah non ha mai detto che debba esserci una sola religione e che se ci fosse una sola religione non sarebbe un bene per gli uomini dei vari popoli. Ma lei quando ha sentito questa frase, voglio trasformare l'Europa, sarebbe bello se l'Islam abbracciasse tutta l'Europa, un brivido, lei che insomma il paladino dell'anti-Islam. Anche ma io lo sapevo già. Ha avuto un brivido, ha sentito. Ma, sai, brivido relativamente, perché le parole di Gheddafi sono state più che altro per me una conferma e io non vedo l'ora al Parlamento Europeo di ripeterlo nell'aula del Parlamento Europeo interrogando i capi, i responsabili, le autorità dell'Unione Europea e cioè a dire che cosa ne pensate, che cosa rispondete, che cosa dite di questo progetto, siamo d'accordo? Lo consideriamo un progetto di libertà per esempio, ma lo potrebbe chiedere anche al suo governo, al governo Berlusconi. Ma il governo Berlusconi non aderisce a questo progetto e io dico che forse essendo un ma essendo folklore, un invito, è folklore come dice Fattini, ma io le dico una cosa oppure è una cosa seria? Ma io penso che la definizione di folklore sia stata ovviamente squisitamente diplomatica da parte di Berlusconi, ma quello che mi indigna non è il silenzio al riguardo, perché è stata fatta una dichiarazione nel cuore della cristianità. Mi indigna il silenzio incredibile di quegli esponenti della Chiesa, per esempio il Cardinal Bagnasco, che ogni un giorno su due intervengono, per esempio sul federalismo con grande incisività. E invece su Gheddafi, niente, ma magari nei prossimi giorni sentiremo qualcosa. Sarebbe stato importante. Lei rimprovera Bagnasco, di qualcosa Bagnasco. Sentiamo però quello che succede su Blob. La Libia non dimentica l'occupazione coloniale italiana e chiede il risarcimento dei danni di guerra. Queste le affermazioni pronunciate ieri sera da Gheddafi. Caro Borghezio, però qui abbiamo un sindaco di una città italiana visita di cortesia. Di una città italiana, si chiama Maurizio Faina. Buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Bene, bene, tutto bene. Che oltre a partecipare questa sera all'evento Gheddafiano di questi giorni, sì, il ricevimento per quante persone, Faina? 800. Credo 800 persone. 800, Borghezio, lei col cavolo che ci va naturalmente. Beh, non mi hanno invitato, quindi non sono neanche messo in tentazione. No, figuriamoci. Forse per il menù, magari, Borghezio, che no? O no? Beh, sei islamico, lei è su Blob, lei è su Blob. Ci lasciamo togliere i canti natalizi da una banda di cornuti islamici di merda! Detto con il massimo rispetto per gli imam, per tutti questi, tutte queste palandrane del cazzo che circolano liberamente, che organizzano terrorismo, attività sovversive che nessuno controllava in questo paese di Pulcinella, con questori e prefetti che prendevano 10 milioni al mese, non facevano un meritato cazzo per andare a cercare i veri sovversivi, quelli che organizzavano le reti islamiche. La Lega aveva indicato per tempo in Viale Jenner un covo di cornuti islamici bastardi che bisognava buttare fuori a calci nel culo. Il meeting viene descritto come un dibattito tra due popoli di differenti Borghezio, religioni e mi tradizioni. Aiuti, qual è il vero Borghezio? Questo o quello che stiamo ascoltando stasera? Perché... Ma questo lo lascio a voi, però vi devo dire una cosa sulle cose che ho citato, tipo Viale Jenner, è difficile darvi torto. Ho capito, però le richieste mi hanno dato ragione. D'accordo, però Borghezio, vi dico una cosa. Lei non si può limitare a dire... Forse ho mancato un pelo di etichetta. Ecco, diciamo un pelino così, en passant, un pelino di etichetta. Però su Gheddafi mi dica qualcosa di serio, alla Borghezio, non una cosa diplomatica così, cioè come una definizione di alla Borghezio, una cosa vera, Borghezio. Lei vabbè che stavolta è in salone nel suo studio a Torino, a casa sua, non so dove. No, io sono nella mia biblioteca, ma devo dire una cosa. Cioè un beduino, come lo definisce lei? Borghè, una cosa... Io direi questo. Nella storia abbiamo avuto il modo di conoscere molte figure di dittatori, ma l'arroganza, la spudoratezza e la faccia tosta di questo capo di Stato è raro trovarla negli altri esempi della storia. Trattiamo le donne meglio di noi, lo sa chi lo disse pure questa cosa? L'ha detta oggi Gheddafi, che significa secondo lei trattiamo le donne meglio? Come le trattano le donne libici secondo lei, Borghezio? Ma loro sostengono, io questa tesi l'ho già sentita, loro sostengono che certi lavori, per esempio i lavori di raccolta dell'immondizia nel mondo arabo islamico non vengono fatti fare per rispetto alla donna, e questo sicuramente sarà anche vero. Il problema è che in un Occidente che obiettivamente si sta islamizzando c'è un grosso problema di condizione femminile della donna, intesa come donna islamica che magari avanza dei diritti, vuole mettersi la minagonna, vuole fidanzarsi con un ragazzo cristiano e così via. Ed esiste anche un problema. Dunque, mi scusi un attimo, Borghezio, ma quando Gheddafi dice trattiamo le donne meglio di voi, dice una stronzata, diciamo la verità. Diciamo che una cazzata, come lei ha detto in quel comizio. Diciamo che soprattutto la spudoratezza di dire una cosa evidentemente falsa in una sede ufficiale o comunque in un'occasione ufficiale. Questo è una mancanza di rispetto per la nostra civiltà. Ho capito. Faina, so che invece lei con Gheddafi ha un altro tipo di rapporto, ma ci sentiamo tra un attimo. Resti lì in viaggio verso il ricevimento di Gheddafi. Quanto manca, Faina? È già lì lei? Niente, sto dentro la caserma e con soddisfazione ci sto, guarda. Quale caserma? A Roma dei Carabinieri. Che sta a fare dentro la caserma dei Carabinieri? La fanno qui la manifestazione. Ah sì, dentro dov'è esattamente? Nella... A Roma, Carlo D'Angiò. Ah, che fanno lì? Ah, il ricevimento lo fanno lì, questo ricevimento? Sì, la cena la fanno qui dentro. Con grande soddisfazione, perché insomma Gheddafi si è innamorato di questo piccolo centro, se non sbaglio in provincia di Rieti, è così? Esatto, sì, provincia di Rieti. Antrodoco o Antrodoco? Com'è la... Antrodoco. Sì. Antrodoco, ne parleremo tra un attimo dopo la pubblicità. E siamo qui alle 20:13. Cosa sta facendo per voi di Antrodoco Gheddafi? Faina, lei è contentissimo di essere lì, orgoglioso di essere alla caserma Salvo d'Acquisto dove si svolge il ricevimento per Gheddafi. Cosa sta facendo? Sì, siamo stati adesso, abbiamo assistito all'inaugurazione di una mostra che riguardava la storia libica e dell'Italia. Sì. Oggi siamo qui alla caserma per questa serata. Io prima non volevo, è una battuta che ho fatto ascoltando chi mi ha preceduto. Che battuta ha fatto? La battuta di essere qui con soddisfazione. Perché con orgoglio ho detto io, altro che soddisfazione. Con orgoglio, soddisfazione, perché ritengo che per un piccolo comune avere questi investimenti da chiunque vengano sia oggi un grande risultato. Allora, riassumiamo, a un certo punto in viaggio verso il G8 Gheddafi si ferma sia all'andata che al ritorno in questo piccolo centro molto carino in provincia di Rieti. Sì. Se ne innamora, incontra poi il sindaco lo raggiunge anche una volta sotto la tenda in Libia, si instaura un rapporto, emissari vari vanno a visitare Antrodoco, alla fine che avete portato a casa, Faina, detto così? Niente, due progetti di un grande albergo e la ristrutturazione delle terme e l'imbottigliamento di un'acqua olico-minerale che noi abbiamo in una frazione ad Antrodoco. E questo cosa significa per Antrodoco? Significa occupazione, investimenti che oggi i comuni difficilmente trovano da parte dei privati, quindi credo che qualunque cosa, qualunque comune avrebbe accettato questo problema. Poi il giudizio sulla persona, sulla storia, è troppo facile darla oggi rispetto a quello che è stata la storia. Senta Faina, quando però Gheddafi dice l'Islam è la religione d'Europa, trattiamo le donne meglio di noi, eccetera eccetera, queste sono strozzate oppure questo è un fatto personale che io, ecco, a lei non gliene frega niente di questo, non me ne frega niente di quello che lui pensa rispetto a questo che sta facendo per Antrodoco. Allora, a voi interessa quello che sta facendo per Antrodoco, l'acqua, l'albergo, poi come fare però un patto col diavolo, no? No, non credo. Non è il diavolo? No. Che ci sono altri diavoli che girano per l'Italia, quindi. Ci sono altri diavoli, questo non è male. Cioè, per esempio, un altro diavolo chi sarebbe, secondo lei? Ma il centro-sinistra questa sera hanno manifestato qui Di Pietro con degli slogan, insomma, anche offensivi per le persone. Che hanno detto? Ma c'erano di quello che mi ha detto lei sulle donne, sulle cricche, sulle comitive, sono cose del momento della politica che io non condivido. Ma lei è sindaco dell'UDC, in una lista civica, però è dell'UDC. Sì, io sono dell'UDC, sono uscito per diverse motivazioni. Però da cattolico le cose che dice Gheddafi a lei non gliene frega niente, non si indigna. Non me ne frega niente, non le condivido, però non sto a giudicare perché ognuno ha il suo credo, la sua religione e condivido quello che liberamente uno accetta. Per cui a lei l'Islam come religione d'Europa non è una cosa di folklore, figuriamoci. Se poi è una, diciamo, dichiarazione che ha fatto un leader, se ne assume le sue responsabilità, però ecco, ognuno è libero di, nella religione, nella famiglia, di pensare quello che vuole. Ho capito, però lui si auspica che tutta l'Europa diventi islamica, lei lo dice. Ma no, non credo che... Non ci crede, lei lo dice, ma non ci crede. Possa succedere questo, quindi. Senta, ma stasera lei lo vedrà Gheddafi? Sì, già ci siamo salutati alla mostra fotografica. E che le ha detto? Niente. A me mi ha fatto piacere rivederlo. Certo, non si ricorderà perché abbiamo fatto un incontro di tre quarti d'ora, tutta la gente che incontra, però ecco, con soddisfazione ha ricordato Antrodoco. Senta Faina, ma sentiamo il traffico, torno subito 800 24 00 24, poi le chiedo un'ultima cosa: Borghezio era interessato al menù di questa sera, come sarà? Questo non lo so perché ancora entriamo. Borghezio non sarà islamico, sì, forse sì. Penso che come minimo richiederà un menù islamicamente corretto, quello che vorrebbero imporre anche ai nostri ragazzi nelle scuole, no? Per evitare il trauma agli studenti, ai ragazzi islamici. Però ha sentito Faina che dice... Io vorrei chiedere al sindaco soltanto una cosa, approfitto del fatto che ha questo rapporto diretto con Gheddafi e gli chiedo un piacere dal cuore e sento che è una persona per bene e sono sicuro che avrà il coraggio di dirle queste parole. Chieda a Gheddafi quanto tempo, quanti secoli ancora devono aspettare gli eredi di quelli che ha cacciato in malo modo, gli italiani che ha cacciato in malo modo dalla Libia, per avere il risarcimento di quello che il governo libico e lui... Ma che gliene frega a Faina, non gliene frega niente via di queste cose. A ha Faina portato bravo, via i nostri connazionali, che lo sta dicendo lei, perché no, non c'è io nessuna autorità che ha il coraggio di chiederlo. Io penso che questo umile sindaco abbia, possa avere il coraggio morale di avere... Borghezio, si fermi. Che dovrebbero avere le nostre autorità. Borghezio, si fermi un attimo. Faina, glielo dica lei. A me di queste cose non me ne frega niente. Glielo dica lei, io sono... Non me ne frega niente, sì, proprio in questo modo. Borghezio, ha sentito? Non gliene frega niente di queste cose. Ma ha sentito, Faina, al sindaco di Antrodoco non gliene frega niente di queste cose qui, la storia, le cose. Lui, no, da Gheddafi... La seguo io, però... La segue, però ha ottenuto delle cose per il suo comune, che gliene frega di quello che dice Gheddafi? Senta, chiedo scusa, ma stiamo entrando in un pulmino, non posso più parlare. Ma il pulmino a noi ci interessa. Faina, un attimo solo, 20:19, sì. Aspetti lì, un attimo, anche se nasconda il telefono, traffico. A bordo di un pulmino il sindaco di Antrodoco, Maurizio Faina. Che, il pulmino a che serve, Faina? Stiamo spostando, abbiamo parcheggiato, ci porta dove fanno la manifestazione, dentro la caserma. Dentro la caserma, però Gheddafi ancora ci vogliono pare una quarantina di minuti. Poi sa che Gheddafi è un famoso ritardatario, una volta finito. Ma oggi è stato puntuale alla mostra. Oggi è stato puntuale. Posso dire questo. Forse si ricordava di un'altra volta in cui Fini addirittura c'era un ricevimento alla Camera, si ricorda, no? Sì, questo l'ho sentito. Faina, comunque glielo dica lei a Borghezio, come vuole rispondere a me? Ma niente, sono opinioni di Borghetti. No, Borghezio, europarlamentare della Lega Nord, Faina, sì, ma sono opinioni degli italiani, le tiene, noi ci teniamo le nostre. Non sono opinioni. Un attimo, Borghezio. Borghezio, come si chiama? Si fermi un attimo. Faina. Sì. Che vuole dire Borghezio? Borghezio, Che vuole dire a Borghezio, Faina? Pronto? Sì, che vuole dire a Borghezio? Gliel'ho detto, dico, ognuno ha le sue opinioni, se le tenga. Cioè non raccolgo queste sfide così. A me interessa, solo me lo dica, a me interessa solo che Gheddafi cacci i soldi per Antrodoco. Devo fare gli interessi del mio paese. Dunque. Chi governa dovrebbe fare gli interessi di tutta l'Italia, al contrario di quello che sta succedendo. E io sono di centrodestra. Lei dice a me basta che Gheddafi cacci i soldi per il mio paese, giusto? Non li caccia lo Stato italiano, li caccerà qualcun altro. Questa è la morale di Don Abbondio, caro. Don Abbondio lo conosco io, lo conosce anche lei. Che fa? Che c'entra Don Abbondio adesso? E che ne so io, perché Don Abbondio sta dicendo il nome di Don Abbondio. Di lavarsi le mani di quello che succede agli altri. Ma i nostri connazionali piangono ancora per quello che hanno subito in Libia. Sono stato eletto, sono 20 anni che faccio il sindaco. Più volte la gente ha votato il centrodestra con grande delusione. Però scusi, Faina, se il centrodestra non c'entra niente. Borghezio dice una cosa. Qui abbiamo quei rifugiati che Gheddafi ritratta come ritratta. Ma parliamo di altri territori, di altri stati. Oggi si parla di Gheddafi perché è in Italia. Parliamo della Russia, della Cecenia, parliamo di altre cose. No, se tocchiamo Putin è un altro discorso. Però scusi Faina, lei fa un ragionamento molto chiaro, molto lineare. Sì. Qui c'è Gheddafi che a noi ci fa, me lo dica, me lo ripeta, alberghi. Ci fa un albergo, ci sistema le terme, ci bottigliamento una fabbrica, creiamo occupazione e interesse generale di tutta la provincia di Rieti. Questo è quello. Tutto che... il resto me ne frego. Tutto il resto non conta. Borghezio, ha capito? Questa è l'Italia che non cambia mai. Fatela cambiare voi dal facilmente norte. Di quello che hanno fatto i suoi connazionali. Fatela cambiare voi io dal norte con la Lega. Lei avesse il coraggio di dirglielo. Ho capito, Gheddafi, se ci incontriamo glielo dico. Io sto come diceva quello là, i promessi sposi, il coraggio viene... Quello sta altro, Borghezio, Faina sta... Mi venga a trovare Antrodoco e ne parliamo qui. Sta ad Antrodoco in provincia di Rieti, che gliene frega di quello che succede in Libia, di quello che succede agli ex rifugiati, agli ex residenti italiani in Libia. Borghezio, lo capisca. No, questo potrebbe essere una considerazione che io la faccio mia, però non è del momento ricordare queste cose della storia. E invece secondo me è proprio l'occasione. Quello però Faina, su questa ragione Borghezio, se non è questo il momento, quando viene Gheddafi d'Italia, quando è il momento? Mai. Ecco, Ci pensi su, sindaco. Ci pensi su, Faina. Lei passerebbe la storia per essere stato l'unico, l'unica autorità. Ci pensi su, Faina. Rimproveri Gheddafi, ma figuriamoci. Un attimo, Borghezzi, un attimo. Gli chieda conto, perché i nostri connazionali, ho capito, abbiamo capito, Borghezio, ma l'abbiamo capito. Faina, risponda per l'ultima volta a Borghezio. Non ho capito la domanda. Borghezio la invita a bisbigliare nell'orecchio di Gheddafi. Senta, colonnello, se mi capita l'occasione lo farò. E che le dire? In che lingua, sì, in che lingua ci parla con Gheddafi? Ma c'è l'interprete, perché lui l'italiano non lo capisce. Io l'inglese non lo parlo perché sono un sindaco di montagna. È un sindaco di montagna. Con l'interprete, dunque, l'interprete italo-libico, diciamo, italo-arabo, dall'italiano all'arabo. Vabbè, allora lei, Borghezio, chiede che lei bisbigli un attimo all'orecchio, guardi, c'è da risolvere la questione degli italiani. Ma quello si arrabbia, Borghezio, quello si arrabbia. Ti pare che Faina può mettere in discussione gli investimenti di Gheddafi per dire queste cose? Borghezio, lo capisco pure lei. Che Gheddafi non potrebbe stare zitto di fronte a una richiesta di questo genere e dovrebbe dare una risposta, se la domanda non viene fatta all'orecchio ma viene fatta di fronte alle autorità. Vabbè, ma lei si aspetta troppo da un sindaco, da un piccolo sindaco, detto con tutto il rispetto, Faina, di un paese in provincia di Rieti, il quale... Ma visto che non c'è nessuno che ha il coraggio di farlo, io continuo a sperare che il piccolo sindaco abbia il coraggio di fare quello che le alte e grandi autorità e potenti autorità non fanno evidentemente. Non ho avuto fino adesso il coraggio di fare. Faina, buona cena, buona cena. Grazie. Buona grazie. Cena. Borghezio, grazie. Anche a lei. Buona cena. Che mangia stasera, Borghezio? Beh, non islamica, certamente. Questo l'avevamo capito, ma che cosa? Non lo so, perché devo uscire con amici, speriamo in bene. Come speriamo in bene? Qui a Torino abbiamo dei piatti della nostra cucina tradizionale. Vabbè, lei che mangia di solito a cena, Borghezio? Io di solito mangio un po', io non mangio molta carne, quindi se posso mangio del pesce, ma insomma amo anche la cucina mediterranea e se il sindaco avrà il coraggio di fare quello che gli ho chiesto, stia certo che gli sarò riconoscente. Perché e che, gli vuole, la che vuole causa, fare, per, che vuole la fare causa per il sindaco? La causa della nostra gente deve essere la causa di tutti quelli che fanno politica, sì. E quindi anche di un piccolo sindaco. Però Borghezio, io sono molto interessato, siccome lei, adesso glielo posso dire perché siamo in confidenza, mi è un po' pesante dal punto di vista dei chili, no? Sono sempre preoccupato dalle cene delle persone, da quello che possono mangiare. Lei non ha nessuna intenzione, come hanno fatto diversi parlamentari, di affrontare la questione della dieta, per esempio? Ma guardi, la questione della dieta secondo me è un capitolo del tutto sbagliato, perché il politico non deve essere né grasso né magro. Lei come si considera? Lei come si considera? Il politico deve essere attivo e fino adesso il peso in più non mi ha impedito di essere attivo, di fare il mio dovere, magari in maniera anche criticabile, perché tutte le opinioni sono opinabili. Com'era quel comizio? Però... un pelino? Com'era quel comizio che abbiamo sentito? Un pelino? Beh, forse ho mancato un periodo di etichetta, però mai di ipocrisia, mai colpevole di ipocrisia, di poca chiarezza. Come parlo io capiscono tutti. Ah, su questo non c'è dubbio. Borghezio, grazie, non mi ha detto cosa va al ristorante, poi ce lo racconterà un'altra volta. 20 27 39 800 24 0024, Nedo da Milano, buonasera. Buonasera. Signor Nedo, ecco, cosa mi vuole dire? Se per caso mi lascio parlare un attimo, perché sto delle ore e lei non mi fa mai parlare, io le volevo fare una domanda. Lei è stato in Libia? No. Ecco, allora sa, visto che trattano bene le donne, quando uno taglia la mano destra... Ma chi ha detto che trattano bene le donne? Eh? Chi l'ha detto che trattano bene le donne? No, Gheddafi. Ah, Gheddafi. Così. Sì, lei sa cos'è? Io vorrei che lei fosse il figlio di un immigrante che gli ha rubato tutto, per vedere se dice che è dettagliato. Che è un dettaglio, lei la prende troppo scherzosamente. Ma io non l'ho detto che è un dettaglio, è il sindaco di Antrodogo che dice che non gliene frega niente. No, comunque lo dico. Ho detto che non mi indigno per la visita di Gheddafi. Scusi, lei gli dà retta, vuol dire che lei approva quello che dice il sindaco. Ma io penso che a un certo momento un po' di dignità ci voglia. Guardi, sono anch'io d'accordo con lei che si può ridere, si può scherzare, però quando non ci si è di mezzo. Ma se lei, io sono stato in Libia e le posso garantire che è una roba tremenda per tutto il popolo. Mm. Sa cosa vuol dire tremenda? Ho capito, Nedo, io ho detto, ma io ci vado, ci vado, perché come turista è un posto sicuramente molto interessante. Oggi ho letto anche sui giornali molti italiani innamorati, la contessa Marzotto, innamorati della Libia, però non riesco a indignarmi fino in fondo per questa storia della visita di Gheddafi in Italia. È un mio difetto, Nedo, è un mio peccato. Uno ruba l'Italia alle mani, non è come in Italia. Dico, ma non ha detto, io non sono mica gheddafiano. Con le mani tagliate. No, non sono gheddafiano. Non ha risposto, perché c'è vergogna di farci vedere. Ma chi le ha risposto? Ecco, questa è la Libia, poi va tutto bene, per l'amor di Dio. Io non voglio, io praticamente quando è venuto e ha speso miliardi quando c'era la fame nel mondo, non mi viene da ridere, perché mi viene da ridere per i nostri politici e per tutti gli altri, e quello lì è il problema. Io rido, sai perché? Per il popolo italiano, che va tutto bene. I libici gli va tutto bene per forza, in Italia gli va tutto bene perché sono contenti così. Mm. E allora basta, non discutiamo. Però se devo essere onesto, sì, è una situazione che effettivamente, ho capito, è, ma perché lei, perché mi dica lei, no, ma perché lei mi critica perché io non mi indigno? Non ho capito. Prego? Lei mi critica perché io non mi indigno su Gheddafi. No, ma non mi indigno nemmeno io. Allora io la vuoi? Trovo una comica. Io dico solo una cosa, che questi personaggi c'erano una volta e ci sono nel 2010, che fanno quello che vogliono, si arricchiscono. Vabbè, ma queste sono generalizzazioni, su Nedo, sono generalizzazioni. Queste vengono a farli smargiare. Sì, vabbè, ma queste e sono... vengono anche a dire... Vabbè. E cosa dobbiamo fare noi? Vabbè, Nedo, lei parla di Gheddafi, lei sta parlando storia, di Gheddafi. Siamo un popolo così. Ho capito, si fermi, mi ascolti. Borsa, andiamo via. Come si bella cavalla stuga mella gobbino glattra con la coda bandi un archile. Me si curioso mentre scava stu per tu si scorda della non è cosa e caupatoria non c'è sta. Alla alla alla. Ma chi t'ha fatto fa? Come si bella cavalla Nedo? Sì, eccomi qua. Ma lei ha continuato a parlare per 10 minuti. Quello che voglio dire è questo, che a un certo momento, io che ho 70 anni, ho vissuto la Libia circa 65 anni fa e la trovo nel 2010 alla stessa maniera, loro col petrolio e noi che non avevamo niente. Voglio dire, non c'è nessuna evoluzione, però... Nedo, ma ascolta, bene, no, Nedo... Tutto a posto, tutto così, niente, sì... Paolo da Napoli, Paolo. Quelli che hanno fatto i danni a noi non hanno mai pagato Pronto? Niente. Noi Paolo, dica. Pronto? Sì, dica. Buonasera. Senta, no, lei prima chiedeva, magari qualcuno anche se scherzosamente, di chiamare... nella sua trasmissione di darle l'appellativo di stronzo del fatto che lei non si... Aspetti un attimo Paolo, perché Nedo sta continuando a parlare, ecco, io non capisco. Ecco. No, Nedo, se mi ascolta possiamo intavolare una discussione, se no lei mi continua ecco, a parlare. Va bene, d'accordo, l'ascolto. Allora, ma lei si indigna? Io non ho capito se lei è indignato per questa visita di Gheddafi o no. Pronto? Sì, voglio capire, lei per questa visita di Gheddafi è indignato o no? No, per Gheddafi non sono indignato, io sono indignato per i nostri politici, ma a me Gheddafi non me ne frega, non vuole fregare di meno, come dice lei. A me non me ne frega niente. Cioè, per i nostri politici che lo invitano, per i nostri, visto, per i nostri politici, niente, non ho visto come stanno le cose e dico che in un certo momento lui ci dovrebbe guardare in casa e non venire qua a targheggiare, a prendere sti morti di fame e dice io pago 200, 700 ragazze. Tanto lì sono tutti morti di fame, boccalome, li faccio correre come ho voglio. Capito, io. Ho capito. Francesco, provincia di Brindisi. Francesco, buonasera. Buonasera. Complimenti per la trasmissione. L'ascolto tutte le sere, finalmente ho avuto l'occasione di parlare. Senta, volevo dire questo, io non sono indignato con Gheddafi, perché come capo di Stato fa il suo gioco, come lo fa Berlusconi, come lo fa chiunque, come lo fa anche lei nella trasmissione, dire che anche lei dicesse sono indignato con Gheddafi, finirebbe la trasmissione, invece la sta portando bella insomma, duratura. Niente, volevo parlare per quanto riguarda invece delle ragazze. Pronto? La sento, Francesco. Le ragazze, praticamente si diceva prima, non sono veline, secondo me sono veline, si vendono per avere un momento di successo, che so, stamattina sentivo alla radio che tre ragazze erano a favore, rimaste colpite da Gheddafi a favore dell'Islam. Mm. Ci hanno provato, dice magari, infatti... Magari che? Magari che? Magari mi, posso fare la velina, magari... Ma che c'entra la velina con l'Islam? Non mi pare che in Libia sia pieno di veline. Guardi, io non ho molta stima. E poi lei ha una considerazione delle cosiddette veline che mi sembra tutta negativa, caro Francesco. Guardi, oggi le venine, io non ho molta considerazione delle veline, no? Chiedo scusa la volgarità. Ma lei cosa intende per veline innanzitutto, Francesco? Velina per me è la ragazza a tetta e culo. Chiedo scusa per la volgarità. Beh, insomma, adesso chieda scusa, può anche chiedere scusa per la volgarità, non c'è problema. No, ma che significa? Non è che sia una cosa disdicevole avere un bel sedere? No, guardi, è altro ancora, o no? Ecco, stavo riflettendo a quelle tre ragazze che oggi, stamattina, comunque sia, ne hanno parlato le radio, dicendo... No, Francesco, ragazze... quelle si sarebbero convertite all'Islam, cosa c'entra la velina? Ma non ho capito. Stanno provando per avere... Per avere che cosa? Successo, perché la radio parli di loro, perché... Ma non credo che sia così. Vabbè, Francesco, grazie. Paolo da Napoli, con cui ci eravamo interrotti prima. Prego, Paolo. Buonasera, Cruciani. Senta, mi scusi, per prima, dica. Lei prima chiedeva la telefonata di qualcuno che le desse dello stronzo sul fatto che non si indignava. Sì. Vabbè, non l'è dato da solo, ma non mi permetto qui di dirglielo. L'unica cosa... No, che ma lo può dire anche se lo pensa. No, ma assolutamente. Le volevo dire, innanzitutto, fare i complimenti per una cosa, perché lei, perlomeno col suo atteggiamento, però capisco che naturalmente fa parte della sua trasmissione, è riuscito a allontanare persone che come me da 7-8 anni seguivano questa radio ben contenti e farli riavvicinare purtroppo a un personaggio a me non molto simpatico come Forbici. E allora perché ci sta, allora perché ci sta chiamando? No, lo so, a lei non interessa. No, ma perché ci sta chiamando soprattutto, Paolo? È un po' in contraddizione con quello che sta sostenendo. No, vabbè, ma io il mio dubbio è soltanto questo. Penso che magari... posso avere da lei una risposta, ma mi faccia capire una cosa, ma lei su che cosa si indigna? Mi perdoni se faccio su io pochissime cose, su ogni argomento, su pochissime cose. Ecco perché, ma adesso me ne dice uno su cui, per esempio, non lo so, non me la l'ultima su cui mi sono indignato non me la ricordo. Come? L'ultima su cui mi sono indignato non me la ricordo. Non ce la ricordo. Non me la ricordo. Mia sonnella, mi scuso per averle rubato del tempo. No, ma Paolo, non me la ricordo, non lo so, ma mi indigno. Adesso voglio dire, indignarsi, magari mi arrabbio per alcune cose, ma indignarsi è un altro discorso. Ho capito, perfetto. Cioè, magari mi posso arrabbiare perché per gli sprechi nella pubblica amministrazione, per come vengono gestite, come viene gestita la cosa pubblica. Allora, queste sono cose che mi fanno indignare, sì, gli sprechi, come viene amministrato lo Stato, questa è una cosa che mi fa indignare, anche se l'indignazione è una parola un po' grossa. Trasmissione in più su questi argomenti. Senta Paolo, se vuole sentire trasmissioni su questi argomenti ce ne sono tantissime, magari questa qua non è la sua trasmissione, non è la trasmissione nelle sue corde, succede che non è la trasmissione nelle sue corde, torni ad ascoltare quello che ascolta, se non le piace questa trasmissione, a me dispiace, dopodiché poi noi facciamo la trasmissione che facciamo, che riscuote un discreto successo, siamo qui finché ci lasciano fare questo tipo di trasmissione, caro Paolo. Noi ci divertiamo, ogni tanto parliamo di cose serie, ogni tanto parliamo di cose meno serie, abbiamo personaggi più svariati, da quelli diciamo che parlano di riforme elettorali a personaggi che parlano di canzone come Mariana Picella. A lei piace questo mix? Non piace? Pazienza. Assolutamente, no, io volevo la mia comunque telefonata, mi perdoni se l'ho fatta per il più tempo, era capire soltanto su che cosa lei si indignava. Ma che gliene frega a lei su che cosa mi indigno io? No, mi interessa, scusi, è un fatto di rispetto. Ma se lei ha detto... trasmissione vorrei capire l'interlocutore, per meglio dire, la persona che ascolta... Scusi, Paolo, scusi un attimo, però anche qui c'è una contraddizione. Lei è partito da una considerazione. Io da un po' di tempo prima la seguivo, adesso seguo... Vabbè. Beh, invece adesso mi scusi. Eh? Un mio sfogo, nel senso, era un mio sfogo. Non so, ma per carità, ma lei si può sfogare, noi siamo qui per questo. Forse non ha capito la grande differenza tra questa trasmissione e altre trasmissioni che lei ha citato, che noi siamo qui anche a raccogliere questo tipo di sfogo, caro Paolo, cosa che gli altri, come lei sa benissimo, non fanno. Lei ci può richiamare, noi la richiamiamo, richiamare per sfogarsi. Lei si può sfogare anche con noi e dire tutto quello che gli pare. Però non può. È un peccato una trasmissione che segua tanti anni a volte non doverla seguire perché non sono interessato a ripetersi dello stesso argomento per varie serate. Ma a parte che non è questa la cosa, ma a lei per esempio capire con chi si rapporta, con chi ha rapporti il Presidente del Consiglio, e in questo caso con Mariana Picella, quando compone le canzoni, quando le canta, se non le canta, è una cosa che riguarda il potere, le interessa o no? Interessa saperlo una volta, due volte, poi basta. Okay, infatti non è che invitiamo a Picella ogni giorno, magari potessimo invitare a Picella ogni giorno. Assolutamente. Vabbè, comunque la mia domanda era su che cosa si indignava, giustamente non si indigna su nulla. No, non ho detto questo, Paolo, vede che lei ha interpretato male, Paolo. Io ho detto un'altra cosa, ho detto che la parola indignazione non mi piace in generale, diciamo, mi arrabbio per esempio quando si parla di sprechi nella pubblica amministrazione, quando vedo le risorse pubbliche essere sperperate. Per questo, diciamo, provo non so come definirlo, un'arrabbiatura, però cerco poi sempre di essere lucido, cioè non sono indignato, ecco, non sono indignato. L'indignazione permanente mi dà fastidio. Perfetto. Caro Paolo, grazie. Niente, arrivederla. Leo Luca Orlando, Italia dei Valori, come sta, Carlo Orlando? Bene, buonasera. Senta, ma lei mi è stato oggi di una durezza nei confronti del signor Frattini, che è ministro degli esteri, insomma, un po', mi sembra un po' eccessiva adesso, francamente, o no? Ma io credo che in qualche modo bisogna esprimere, come dire, il disagio di un paese, l'indignazione, diciamo, che all'estero viene rappresentato in questo modo. Però nel caso di specie, cioè nel caso del ragazzo italiano morto in prigione, in circostanze tutte ancora da chiarire, lei si è presa con il ministro degli esteri. Mi sembra una polemica strumentale, perché? Le posso fare una domanda? Certo. È servito a far svegliare il ministro degli esteri? Può sembrare che in questi giorni aspetti Orlando che non la sentiamo bene, che succede? Dove si trova? L'unica cosa strana è che io, in questi giorni, l'unico a parlare è la famiglia di questo ragazzo, e per fortuna che il ministro Frattini si è accorto della nostra critica, della mia critica, e ha parlato finalmente, ha detto che però mi scusi, lei ha detto una cosa che è andata oltre questa critica, diciamo, dell'assenza di dichiarazioni in questi giorni di Frattini. Ha detto un'altra cosa, che è complice della morte di Franceschi. Era ovviamente una provocazione per dire che questo silenzio, questa inattività non è un modo per rappresentare gli interessi italiani nel mondo né gli italiani che sono nel mondo. Siamo in un momento nel quale la nostra immagine internazionale viene continuamente lacerata dai comportamenti anche di queste ore. Il ministro Frattini è lo stesso ministro che sta sotto la tenda di Gheddafi, che organizza sostanzialmente una sorta di Italia a luce rossa. Cioè, nessun paese europeo. Ah, l'Italia a luci rosse? Che c'entra l'Italia a luci rosse? Nessun paese europeo avrebbe accolto Gheddafi in questo modo, nessun altro paese, ma neanche nel suo paese Gheddafi si comporta in questo modo. Siamo diventati una specie di parco dei divertimenti, dove si viene essenzialmente per dare sfogo a comportamenti che sono francamente mortificanti. Però mi scusi, lei delle persone, delle donne, del paese. Orlando, cioè, mi scusi un attimo, debba venire in Italia per poter fare le cose che nel suo paese lui ha il pudore di non fare, mi sembra che sia un cattivo segnale, no? Ma noi adesso non lo sappiamo quello che Gheddafi fa lì. Sia tranquillo che sicuramente non organizza i pullman con le escort a 70-80 euro l'uno. Ma o escort, queste sono delle ragazze reclutate da un'agenzia, si guadagnano 70-80 euro, è una carnevalata, per carità, ma insomma. Ma stiamo parlando di due capi di governo, no? Ma chi la organizza? La organizza Gheddafi o Berlusconi, sta roba? Diciamo, vale il vecchio principio, se bisogna criticare Carnevale, chi ci va appresso, insomma. Cioè, secondo lei questa agenzia è una carnevalata che da soli non riuscirebbe a farlo. Gheddafi non riuscirebbe a organizzare questa carnevalata a casa sua, allora lo organizza in questa specie di parco di divertimenti. Qualcuno ha detto Disneyland, ma Disneyland è una cosa seria. Diversa da quello che si organizza, ma stiamo parlando dello stesso rapporto internazionale che porta da una parte a mortificare la dignità delle donne. Tutti si sono ribellati a questo tipo di... Senta Orlando, ma secondo lei... Però... Dall'altra parte dobbiamo dimenticare che Gheddafi è l'interlocutore per quel patto scellerato che ancora oggi... Qual è il patto scellerato? Il patto celato di affidare ad un paese straniero la gestione di campi di concentramento di persone che non vengono neanche identificate in relazione a tutte le convenzioni internazionali, vengono deportate in Libia ancorché non siano partite dalla Libia, ancorché non siano libici. Una sorta di affidamento in subappalto della sicurezza internazionale. Senta, Orlando, però... ad un paese che non rispetta i diritti e che non ha sottoscritto le convenzioni internazionali. Senta un attimo, ma io... che non consente l'apertura l'apertura dell'ufficio delle Nazioni Unite per i rifugiati nella propria paese. Sono interessato a capire però se questa storia delle quelle che lei chiama escort, che in realtà sono delle hostess, secondo lei c'è differenza tra hostess ed escort? Ma certamente che c'è differenza. Ah, meno male, ecco. Sono interessato a capire, però. No, un attimo solo, Orlando, sono interessato a capire una cosa. Lei mi consente che risponda una domanda? Ha già risposto. Un attimo. Vuole indicare in quale altro paese del mondo si accoglie così un capo di governo? In nessun altro paese. Orlando, tanto mi basta. Su questo, lei si indigna, invece io osservo, non me ne frega niente. Alla fine. Che vuole fare? Lei lo sa quella differenza fra me e lei qual è? Qual è la differenza? Che io rappresento persone che mi hanno mandato in Parlamento per esprimere anche l'indignazione. Lei dice? Lei non ha questo compito, lei è più libero di me. Dice, posso anche non indignarmi, dice. Lei può anche decidere di non indignarsi. Grazie. Io non posso non è che un parlamentare si deve... Si deve indignare per forza. Non si deve indignare per forza, si deve indignare quando ritiene che le ragioni per le quali è mandato in Parlamento sono quelle di difendere la dignità del proprio paese. L'indignazione è anche un modo per difendere la dignità, scusi il gioco di parole. Sì. No, certamente. Abbiamo il traffico, però questa discussione è molto interessante. Io vorrei capire, secondo Leoluca Orlando, Italia dei Valori, chi organizza questa agenzia delle hostess, cioè se questa agenzia delle hostess, secondo quello che può sapere Orlando, secondo quello che può intuire Orlando, che è un nuovo politico navigato, è tutto organizzato da Berlusconi, perché alla fine non potrebbe farlo senza l'organizzazione di Berlusconi, oppure semplicemente una roba fatta lì dai libici, organizzata dai libici in Italia, magari dall'ambasciata in Italia, da Gheddafi stesso, non lo so, traffico. La Zanzara. Il leader libico Gheddafi è giunto oggi a Roma per celebrare i 2 anni della firma del patto Italia-Libia. Alloggerà come consuetudine una grande tenda che è stata allestita nel giardino dell'ambasciata di Libia a Roma. È accompagnato, tra l'altro, da bellissime amazzoni e 30 cavalli di razza. Naturalmente una città blindata. È stato accolto, lo vedete nelle immagini, dal nostro ministro degli esteri Frattini. Sarà ricevuto al Quirinale, avrà un lungo colloquio politico, sulla politica e sull'economia con il presidente Berlusconi. Non capisco perché se Berlusconi tace, nel senso che non contesta le parole di Gheddafi, che tra l'altro, ripeto, non sono parole insultanti. È come quando il Papa va in Africa e invita gli africani a convertirsi al cristianesimo, non è che lo devono buttare fuori a calci nel sedere. Erano Emilio Fede e Sallusti, caro Orlando, questa è la situazione. Qui il centrodestra rimprovera al centrosinistra che gli affari con Gheddafi li faceva pure il centrosinistra di Prodi, eh? Non è che stavano lì a guardare, a rimproverare Gheddafi, il centrosinistra. Stiamo parlando degli affari personali di Berlusconi. Beh, affari anche dell'Italia potrebbero essere. Ma la domanda che noi abbiamo posto come Italia dei Valori è che il Presidente del Consiglio riferisca in Parlamento quali affari personali lui fa, confondendo ancora una volta in un conflitto di interesse palese il suo ruolo istituzionale col suo ruolo. E quali sono gli affari personali secondo lei? Ma vorremmo saperlo, vorremmo saperlo. Ho capito, però non è che uno dice lo vogliamo sapere, però... Ma siccome tutti parlano dei suoi affari con riferimento al sistema di telecomunicazioni, con i suoi affari con riferimento a un sistema di interessi... Dovrebbe chiarire questo in Parlamento. Chiarisca questo, basta che lo dica, non vuole il suo rapporto d'affari con... Senta, ma la storia delle cose a luci rosse com'è la cosa, a luci rosse? Lei dice l'Italia... Ma guardi, gli esponenti di Fare Futuro hanno usato l'espressione Disneyland... E fanno parte della maggioranza fino a prova contraria. Non c'è stata una sola voce di opposizione che abbia, come dire, taciuto di fronte a quello che è accaduto. E la realtà vera è che noi stiamo dando un'immagine del nostro paese che non è esattamente quello che danno gli imprenditori onesti e seri che lavorano, gli intellettuali, coloro che cercano tutti i giorni di applicare criteri di dignità. Beh, ma è folklore rispetto agli affari che ci sono tra l'Italia e Libia, interessi economici che anche il centro-sinistra porta avanti, o no? È folklore, è una roba così per divertirci, ci facciamo due risate, tre giorni che stiamo parlando di due capi di Stato. Stiamo parlando del nostro rappresentante del governo, del capo del governo italiano. Ma provi lei a far organizzare da Gheddafi una cosa simile con la Merkel. Ma chi le organizza, secondo lei, queste hostess? Chi le porta? Tutta opera di Berlusconi? Chi organizzarle? Le organizza nel nostro territorio. E secondo lei chi le organizza? Chi le organizza, secondo lei? Non può organizzarle senza aver avuto il consenso da parte. Ma il consenso su questo non c'è dubbio, ma alla fine chi tira le fila di questa roba? Delle hostess, cioè Berlusconi stesso. C'è una rappresentanza diplomatica del nostro paese che non dice di no a queste cose. E potrebbe dirlo, è del suo compito istituzionale di dirlo. Quando si organizzano viaggi ufficiali di capi di governo, c'è un rigoroso protocollo. Uno deve dire no, vuoi fare le hostess? No. No, le hostess no. Le fai a casa tua se ritieni, a meno che non condivida che sia questo modo di ricevere un capo di governo. Vabbè, se questo. D'altra parte, tutto questo fa pandanna a quella impostazione per la quale c'è confusione tra il pubblico e il privato, fra lo Stato e il mercato, tra chi controlla e chi è controllato, e quel conflitto di interessi che non riguarda soltanto. Adesso il conflitto di interessi con le hostess non è che è conflitto di interessi. Un altro discorso, no? Rispetto a quello delle hostess, però Orlando... È la concezione di mancanza di distinzione tra il pubblico e il privato. Organizzare un incontro di consiglio dei ministri in una casa privata nella quale poi si ricevono i capi di Stato e si fanno anche i party, le sembra una cosa normale? Palazzo Grazioli, magari con escort, questa volta sì, trasportate con voli di Stato. È una confusione tra il pubblico e il privato, fra lo Stato e il mercato, tra chi dovrebbe controllare e chi dovrebbe essere controllato, chi distrugge il principio di responsabilità. Senta, sostanzialmente chi può fa, non funziona che chi può. Senta Orlando, però quando lei dice, e concludiamo, che Frattini è complice della morte di Franceschi, quel povero ragazzo italiano, è stata una provocazione, ho capito, però non è che per fare una di Frattini Farnesina nei confronti, questo l'ho di capito, un caso che chiediamo venga accertato, ma nel quale i familiari da giorni andavano ripetendo, però, che il Orlando, familiare italiano d'accordo, è detenuto senza garanzia di elementari diritti. Magari la Farnesina ha fatto qualcosa sotto traccia, qualcosa l'avrà fatta, ma non in dichiarazioni pubbliche. Non è che per forza uno deve fare una dichiarazione pubblica per dimostrare di essere intervenuto su una vicenda. E comunque, per provocare il ministro degli esteri c'è bisogno di dire che è complice della morte di una persona. Purtroppo sì, il che dimostra come siamo ridotti male. Vabbè, grazie Orlando, buona serata, grazie, molto gentile. Non mi indignerò mai nei confronti suoi, perché grazie. Il mio dovere è di indignarmi quando qualcuno viola alcuni elementari principi proprio di uno Stato democratico. Perché si dovrebbe indignare con me, Orlando? Ma mai, infatti non mi indigno nei confronti di nessun giornalista che esercita liberamente possiamo avere idee diverse, però ci confrontiamo e siamo lì. L'altro giorno abbiamo avuto una bella conversazione con Di Pietro, che era sul suo trattore, e io gli ho detto: guardi, molte volte la trattiamo male, mettiamo le siglette, lei lo sa, no? Su Di Pietro, che non è, quando ha detto da Fazio io non sono mai in televisione, io ho detto a Di Pietro: scusi Di Pietro, lei è sempre in televisione, come fa a dire una cosa del genere? È stata una provocazione. Probabilmente in quel momento pensava a Menzolini, che gestisce il servizio pubblico come se fosse un servizio privato, non pensava a voi, ecco. E il servizio privato di chi sarebbe? E voi siete immaginati? No, servizio privato di Menzolini, chi è il servizio? Cioè, Menzolini gestisce il servizio pubblico come se fosse sostanzialmente una dependance di Palazzo Chigi, o della Villa di Arco, dice lei. È uguale, insomma. Grazie Orlando. Grazie. 20 56 27. Dove andiamo? Giuseppe da Torino, buonasera. Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Allora, adesso ho sentito Orlando e mi scappa da ridere comunque. Perché cosa le scappa da ridere? Mi scappa da ridere perché per i precedenti del suo capo di Pietro, no? Quando era magistrato con i regali. Vabbè, Giuseppe, non è che ogni volta bisogna andare a rimangare queste cose. Sì, perché visto che loro sono così precisi, allora. Allora ogni volta bisogna dire anche l'Italia dei valori, ai suoi scheletri negli armadi. Cioè, lasciamo perdere. Però mi sia veloce. Sì, veloce. Allora, anch'io non mi indigno, come dice lei, per queste cose, assolutamente. Però mi indigno per un'altra cosa, per i soldi pubblici, no? A Torino, non so se lei è al corrente, è stata elargita una parcella all'architetto Fuxas per la progettazione della sede regionale di 22 milioni e mezzo di euro. Ma io qua non me la prendo con Fuxas, me la prendo con chi ha pensato di inventarsi una nuova sede regionale e dare i soldi a Fuxas. Perché in realtà poi se uno decide di fare una cosa di questo tipo la deve pagare. Dunque esatto. Non è che il problema non è Fuxas. Il problema è... Però qui mi sorgono dei dubbi, no? Che dubbi sono? Saranno andati tutti a Fuxas? No, vabbè, questi se uno non ha le prove non lo può dire. Giuseppe, esatto, devo dare la linea a un'ascoltatrice perché devo chiudere. Tina dalla provincia di Milano. Tina, si è addormentata giustamente perché era in collegamento. Pronto, già da una mezz'oretta. Dottor Cruciani, buonasera. Buonasera Tina, mi concluda la trasmissione. Oh, Gesù, guarda, è più di un'ora che lei ha ragione, questa sera abbiamo avuto un afflusso di telefonate notevole. Volevo dire che very sorry, ma anch'io non sono indignata. Lei è indignata? Assolutamente, sì. No, assolutamente. Non è indignata? No, assolutamente, e trovo lo show di Gheddafi al limite anche simpatico, per carità, la storia sull'Islam, ma io sono contro l'Islam, ci mancherebbe. Ma meglio vedersi queste cose che non ho un grande fratello, le Isole Famose e tutte quelle tragiche trasmissioni che la RAI ci propina. Beh, è come uno spettacolo, Gheddafi, sì. E con questo concludiamo. Grazie. Tina, grazie, buona serata. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.